You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. Che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/lussimedici. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Non so come mi vedete, che ore sono? Così le 11 di mattina. Volevo fare questo video. Ho visto dei video dello stesso tema dove parlavano di mugs. Io direi che i mugs per me in casa mia si rompono tutti. Si rompono, però certi hanno... ogni mug che ho ha la sua storia e certi hanno vissuto moltissimi anni. Ce l'ho... non ho mai seduto in questa cesta qui. Quando hai figli le cose durano poco comunque, però certe cose con usandole sono durati e vi volevo un po' raccontare le storie dei miei mugs, se vi interessa. Io penso il mug che ho, la tazza che ho. Veramente, questa è una tazza e questo è un mug, un po' diverso, però comunque io li metto tutti insieme. Io penso la tazza o il mug che ho di più anni è questo qui. È un peccato pochettino qui, ma non importa. Questo era la tazza di caffè di mio nonno, che poi... l'ha data mio padre e mio padre l'ha data a me, quindi questa è tre generazioni di tazze e ne ho due, però quella che questa qui è quella che usava mio padre, l'altra era quella in più, quindi e la uso ancora ogni tanto, la tiro fuori e mi faccio il caffè come lo faceva mio padre, solo senza latte, caffè nero, e quindi è vecchissima, vedete? E a tutte queste scene, penso sono romane, non so, non sono sicura. Non so chi l'ha fatta, comunque, questa tazza ha più di 100 anni, a questo punto sì. Sì, perché mio padre è nato nel 1920, quindi suo padre, comunque, è in famiglia da molti, diciamo più di 100 anni questa. Poi ne ho un'altra che ha sopravvissuto moltissimi anni. Questa è una tazza, un mug che avevo dato sia a mia madre che alla madre, alle due nonne, alla madre di del mio ex marito, e aveva le foto, infatti le ho fatto fare quando ho fatto la foto di Joshua. Questo è Joshua e questo è Jordan Birbone, guarda, ne ho, sì, gli ho fatti fare questo qui, questo Jordan, mamma mia, qui aveva come 18 mesi, neanche, era, guardi, quando l'ho portato dal barbiere, entrambi, perché avevano moltissimi capelli, quando sono nati, e Joshua è quello che ha i capelli rossi, e Jordan ha i capelli come me, comunque, Sì, infatti sì, qua aveva 18 mesi e già cioè, fa come 3 anni qui. E la usiamo ancora, la uso ancora. E questa è preferita. Ne ho due di queste. Poi un'altra tazza che un altro mug che mi ha seguito moltissimi anni e la usiamo ancora. E ogni tanto quando manca dico: dov'è la mia Latin mug? E questa qui dei miei figli. E l'ho comprato quando è uscito il film. Quindi potete pensare quanti anni fa è uscito questo film di Aladdin. Eccolo qui. Troppo carino, vero? E questo era quando l'ho comprato, perché Joshua quando era piccolo mi rubava il mio caffè latte. Io lo mettevo su qualche posto e lui andava a sorseggiare. Io non volevo che loro bevevano caffè. Però quando gli ho preso questa, non lui veniva e diceva: mamma, mi dà un po' di caffè. Gliene davo un pochettino di caffè latte, pochettino, pochettino nel suo mug. E questo lo usiamo ancora, ce l'ho in cucina, lo usiamo, questi, a volte lo capita in bagno, insomma. E questo è il mio mug di Aladdin. Poi, vediamo un po' qui, parlo di questo. Ok, poi ho un altro mug. Questo è di Batman, perché quando è uscito il primo Batman, vedete qui, questi sono quelli che davano da McDonald's. Ne avevo vari, ora ce n'è rimasta solo una e questo è un mug. Sempre presi per i miei figli, che questi qui non so, non si sono mai rotti, ne ho come due. Questo è il mio mug di McDonald's, adoro, e li regalavano, penso li vendevano tipo 75 centesimi o un dollaro quando, o anche li regalavano, cioè quando è uscito fuori il primo film. E questa è infatti è la tazza Robin, questa è Robin. Questo è Robin, sì, c'è anche Batman da qualche parte. Poi, quando è uscito l'altro Batman, o non so se è il primo Batman, perché ce ne sono stati vari, ho preso questa qui. Forse questa era collegata col cartone animati, non mi ricordo, però questi li uso sempre, li usiamo sempre questi. E hanno, non so, pensate, avranno minimo 15 anni, anche di più. Poi, questo ce l'ho dal 1986, l'ho comprato in Alaska e ne erano due, ce ne è rimasto solo uno e questo ora lo sto per regalare e l'ho comprato in Alaska, vedete qui. Ne avevo un altro che ho comprato in Alaska e l'ho regalato a una mia iscritta, quella con la cacca di alce dentro, cacca finta. E questo ha il fiorellino che è il fiorellino di Alaska. Penso che si chiama Forget Me Not, non mi ricordo come. E questa qui. Uso ancora. Queste le uso tutte. Poi ho questa qui che non so, mi perseguita tutta la vita. È di latta con porcellana sopra. E questa ce l'avrò 30 anni. Questa qui. Ce l'ho sempre e mi tiene compagnia, è buona ancora dentro. Mi tengono compagnia e poi vi faccio vedere quella che sto usando ora. Poi ho questi due che sono di Fiesta, un brand. Questi sono vintage, questi li ho messi via perché questi hanno più di 25 anni questi due. E, dato che questi colori sono l'hanno messo in pensione moltissimi anni fa, quindi sono vintage e queste tazze di Fiesta costano un bel po', come più di 10-15 dollari l'uno, anche di più. Questi non li ho smessi di usare, li ho messi via, però li ho usati per tantissimo tempo. Sono di Fiesta e li fanno ancora, ma colori diversi. Questi due colori l'hanno pensato, sono in pensione, no? Love. Poi, a parte di tutto questo, ho la tazza che sto usando ora, ho il mug, che ho ancora un po' di caffè latte, e questa qui, l'ho comprata l'anno scorso, è di Martha Stewart, e questa ancora, va a buon... sto andando ancora. Comunque, questo è il mio video dei mugs, anche se penso che non so, non è, penso che è un video un po' inutile, però... per tenervi compagnia. Aspetta, vi dico altre chat, già che ci siamo. Il mio, se mi sentite, anche se non mi vedete, stamattina, no stamattina, ieri, ho lavato, ho tirato fuori due camicie bianche. Oh, una mia iscritta voleva, ha detto che gli avevano regalato una camicia di Brooks Brothers, e ce l'ho anch'io di Brooks Brothers, queste camicie di cotone durano una vita. Ne ho due, le ho lavate e c'era, non so, perché un po' di giallume intorno al collo, non so perché, strano perché l'ho usata poco, ho levato tutto, tutto bella lavata e l'ho levata proprio quando era quasi asciutta dalla lava, dalla asciugatrice, e poi l'ho appesa, ora così devo stargli solo una passatina leggera. Questa è di Brooks Brothers, perché mi piace indossare le camicie bianche comunque. Penso chi mi conosce lo sa che c'è alle mie iniziali qui, non so se la vedete qui, proprio sotto, è leggermente sotto il petto, gli dici dove lo vuoi, dove te lo metto, lo fanno, e poi devi ritornare in come una settimana e pronto. E poi ho l'altra, mi dimentico questo brand, è italiano comunque. È italiano, aspetta, ve lo dico. Sapete, io non è che sono sempre il massimo della preparazione. Questa è di Borelli, Borelli, sì. Anche questa è fatta veramente bene e la indosso. Ora gli darò una leggera stiratina, così sono pronte. Cos'altro ho fatto? Nient'altro, sto facendo altri video, però andranno in onda la prossima settimana. Questo ve lo do per tenervi compagnia. Ok. Ci sentiamo presto. Ciao. Vorrei ringraziare tutte le nuove iscritte che sono capitate per questo, in questo canale. Sono iscritte. Grazie. You shouldn't have had. You shouldn't have. Ciao. Buona domenica. Non più fantasia, ma realtà reale, letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Buongiorno, nuvoloso, piovoso. Ok. Quindi siamo in primavera, quasi, quindi stavo un po' pulendo e cose così, quindi mi è preso l'idea di fare un video di cose che io uso per pulire la casa. Provo a parlare un po' più forte perché con l'iPhone, non so, ok. Allora, uso questi prodotti per la maggior che compro in supermercato e si chiamano Method e sono venduti anche in Europa. Vi dico quelli che io mi sono trovata meglio, certi dipende. Questo qui è un all purpose, è al cetriolo. Tutti questi prodotti Method sono tutti verdi, però uso solo due prodotti che non sono verdi. Questo al cucumber o al cetriolo, questi costano $3. Tutti i prodotti costano $3, non so, tutte le loro prodotti costano $3. Però io li compro, a volte li prendo da Target e ho uno sconto in più. Questo è all purpose, questo puoi pulire, è molto delicato al cetriolo, molto carino. E ora non lo posso aprire, comunque. Questo lo uso per pulire i vetri. Pulire tutte le superfici, insomma, in cucina, in bagno. i vetri, è tutto un uno, verde e al cetriolo, è molto delicato, è molto pulito, sale molto di pulito. Se vi piace quell'idea lì, certe persone l'idea di pulito è tutto diverso. Comunque pulisce, e i vetri li pulisce una favola. Qua leva, sgrassa abbastanza, però non è uno, quando ho bisogno di uno sgrassante, dato che io ci sto dietro le cose, non devo usare uno sgrassante. Però cioè, ho un altro prodotto che ce l'ho giù in cucina, che quello è all'arancia, l'olio di arancia, quello sgrassa benissimo. Questo lo puoi usare su tutte le superfici, mattonelle, anche sul legno pulisce. E l'ho provato, perché avevo un po'... però sul legno pulisce. Non so dove in Italia dove li possono... li posso, ho notato che sempre in Abichilenia... Elenia, anche lei usa il Method, non so dove li prende lei. Comunque io sono prodotti low cost, però sono verdi, quindi questo è il all purpose, ok, parlate abbastanza di quello, e tutti questi, ok, poi vi faccio vedere. Poi per il bagno ho questo qui anti-back, e questo è antibatterio ovviamente, dice che è alla menta piperita, quindi se non vi piace quella profumazione, ne hanno altri, però questo mi piace, quello odore di menta, e questo pulisce tutto il bagno, le mattonelle, la vasca. Hanno anche un altro che si spruzza proprio dopo che hai fatto la doccia, me lo prenderò, ma sai, non voglio avere troppe cose, e quello lo spruzzi dopo ogni doccia, così non si non fa quel film. E questo è anti-back, puoi pulire tutto, le mattonelle, il water, tutto, insomma, questo è il bathroom anti-back, $3, io l'ho preso come $2.90 circa. Poi prendo questo, ho questi, tanti prodotti della Method, c'è il refill, quindi devi comprare la bottiglia solo una volta, e poi risparmi moltissimo se compri il refill, e come ti danno come... tre di questi in un contenitore di plastica fine, quelle bustine, per il prezzo di due. Per la cucina, per lavare i piatti, uso il dish soap. Ne hanno varie profumazioni. Questo è ai mandarini, Clementine, e lava tutti i piatti, così. Hanno anche il prodotto per la lavastoviglie, che io non ho. È tutto plant-based technology, e questo hanno i refills, e adoro il profumo di questo, è veramente buono. Poi questi ne ho tantissimi, e questi sono, li metto in bagno, in cucina, ne ho vari. Ne ho un altro al fico che è molto buono, e quello era esaurito per moltissimo tempo, finalmente è ritornato in ce l'ho. Forse se ho tempo lo aggiungo a questo video. Questo è il Current. Il Current è un tipo di, vediamo se è leggermente, è una frutta ovviamente, però è leggermente fruttato, ma non sono delicatissimi questi. E questo, non ho il refill di questo, ho il refill dell'altro, del fico, per lavare le mani. E la cosa carina di Method è che fanno le limited edition, i contenitori carini, con i pois, con le strisce a righe, e fanno i loro contenitori limited edition. Sono allo stesso prezzo, insomma. E questo per... ne ho uno in bagno, uno in cucina, uno in due bagni, uno in cucina. Poi, ovviamente, non tutto verde. E vi spiego perché. Io da sempre uso il Clorox. Cos'è il Clorox? È il... ora vi dico come... è il sodium hypochlorite. Se voi avete il sodium... penso ACE e sodium hypochlorite. E viene con i tappi che non sono... non si possono, non sono facili ad aprire, ovviamente, perché è una cosa molto strong. E questo lo uso se non ho niente, ho sempre questo in casa per pulire. E va, ovviamente devi usare i guanti. Se non lo fai, non è che ti brucia le mani, però ti rovina un po' le mani. Questo lo uso un pochettino quando lavo i bianchi. Questo è l'unico sbiancante che io uso che funziona bene, e disinfetta quando lavo i panni bianchi. Questo qui non è potente, non è come quello venduto in Italia, quindi questo qui, vi dico, uccide 99% dei germs, ok? Guarda quanto è potente. Kills cold, flus and viruses. E lo fa perché questo, il sodium hypochlorite, lo usano per... Voi non lo sapete, però l'acqua che voi bevete dal rubinetto, se lo bevete, quello ha dentro sodium hypochlorite, perché è quello che loro usano per disinfettare l'acqua. O in paesi del terzo mondo usano sodium hypochlorite per disinfettare l'acqua e fa deodorizes. È come l'ace, però non so, a me piace questo, è proprio più pulito. Comunque ti dice qui come usarlo, c'è tutte le precauzioni qui. Ovviamente ognuno fa quello che gli pare in casa sua e io lo uso con cautela e ovviamente devi avere la finestra sempre aperta quando usi questi. Però questo costa poco. E la Clorox ha acquistato Burt's Bees. Solo per farvi capire quanto è osceno questo, che la Clorox, una società che fa questo prodotto da 100 anni, ha acquistato la Burt's Bees, non so perché. Comunque, questo è un prodotto molto amato, molto usato, e specialmente nei tempi delle influenze, diciamo da ottobre a febbraio, io lo uso sempre, perché poi ho persone in casa, uso nel bagno, e dopo che pulisco con tutto questo verde, in bagno, nelle superfici in bagno, ci passo un po' di questo con acqua, no? Sul water, su tutte le superfici ci passo questo per dare l'ultimo disinfettante e mi piace, e se a voi non piace non usatelo. Poi ho preso delle ho fatto una ricarica di mason jars. Le mason jars costano pochissimo, queste sono questi mason jars. Li chiamano mason jars, vedete qui c'è scritto mason jars, perfect mason. Le fanno vari brands e io Ball è uno dei più vecchi brands che fa le mason jars. Mason è la persona che ha creato, brevettato il modo perché prima in tempi antichi, quando facevano le cose dentro questi barattoli per conservare, usavano la cera qua intorno, e lui, questo Mason, ha creato questo sistema, no? Che poi lo metti così, poi le chiudi, poi le metti dentro l'acqua calda e li fai, e poi questo si apre così e poi metti tutto quello che metti dentro. Beh, c'è tutta una procedura. Comunque, però, questi Mason jars le usano per tantissime cose e ho notato in tanti dei video che questi Mason jars stanno sbarcando in Italia. Non che le Mason jars sono nuove, perché le persone che fanno il sugo in casa e altri risottoli usano mason jars. Comunque Mason è il tipo che ha brevettato questo sistema. Comunque, però ho notato che ora, perché delle persone, perché ci sono quelli con il manico che sono molto carini, qui ci sono da moltissimo tempo, io non li uso perché penso ne avevo uno, perché sono pesanti e non mi piace usare quelli di plastica. Comunque questi li userò, hanno 1000 usi, ne ho uno che mio figlio, quando era giovane, ha fatto una lampada, no? Perché si fa il buchino qui, si mette dentro qui il meccanismo, no? E poi ha fatto una lampada. Ce l'ho da qualche parte, la stavo cercando prima di fare questo video, non l'ho trovata. Comunque, le mason jars, se andate su Google e digitate DIY mason jars, ci escono fuori tanti 1000 cose che puoi fare con queste jars, a parte usarle per cose cibarie. Io le userò in bagno per mettere il cotton fioc, altre cosettine per il, le userò così e costano un dollaro questi qui, perché io ne compro 6, non so, erano 6,9 dollari. Ne hanno di tutte le misure e sono comode, insomma, sono low cost e ne hanno. Io avevano questi, era una limited edition, erano in celeste, però c'hanno tutti i colori, insomma, hanno anche visto anche in verde e c'è anche in trasparente. Quindi e sono comodissimi, low cost e mille usi, li puoi usare nella dispensa per mettere riso, grani e cose del genere, così. È la cosa meno costosa per e questo è carino anche nella dispensa, così è tutto uguale, costano un dollaro, insomma un dollaro e mezzo, e hanno varie misure, mettere il riso, la, e c'è, probabilmente ci sono persone che ce l'hanno questi. È carino, e dietro qui c'è misure. Ci sono vari brands, Ball è una di quelle più amate, diciamo, ma li fanno la tecnologia Mason. La usano tantissimi brands in Italia e io ne ho uno italiano che vendono anche qui e penso che, correggetemi, penso che Bormioli fa le Mason jars. Bormioli, penso si dice così, sì, perché io ho Mason jars della Bormioli, quindi in Italia quello è il vecchio brand che fa questi, e se ne trovate vintage ancora molto più carino. Comunque ho parlato di questo. Un'altra cosa che io uso per la casa e che ce l'ho in bagno, mio figlio è in bagno, è il fabuloso, che c'è anche in Italia. Quello è un altro prodotto, quando non ho niente uso quello per pulire tutte le superfici, quello blu, c'è anche quello viola. Il fabuloso, fabulous, mi piace proprio la profumazione. Però ora sono addicted a questo qui, al citriolo della Method. Cos'altro? Per il, non uso... il fabuloso lo uso per lavare il pavimento, ho un piccolo pavimento in cucina, quello uso quello. Niente, quando non ho niente uso il Clorox, con un secchio d'acqua metto due goccettine, un tappo di questo e pulisco tutto. Questo è più per disinfettare e per sbiancare, lo uso per quello. Comunque questo è tutto qui. Mettete voi i vostri commenti, non voglio sentire commenti sul Clorox perché è la mia decisione di usare una cosa che è molto diffusa, che è usata in paesi, la bevete di giorno e non me ne accorgete perché disinfetta e nell'acqua in tantissime cose, quindi capito, le Taliban della, possono andare anche buh. Ok, questo è quello che uso io e condivido con voi con tanto piacere. Ci sentiamo presto, ora vado a sistemarmi. Ciao. Avete ascoltato interventi di Lucy Medici da New York. Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Yoga Network. Voglia di talk radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del professor Giorgio Cerquetti, youtube.com/user/GiorgioCerquetti. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. I chakra sono dei vortici energetici. Ognuno di noi è composto da vortici energetici che si muovono anche a distanza incalcolabile. Allora, tutti quelli che sono in questa stanza hanno scelto, almeno adesso, di avere un corpo fisico. Eccoci qua, presenti, cari corpi. Poi ci sono quelli che vengono con altri corpi da altre civiltà chiamate galattiche o extradimensionali, e poi ci sono quelli che girano tipo in incognito, modo di dire, da disincarnati. Quindi in questa stanza uno dice, ah, ci sarà una cinquantina di incarnati, non si sa quanti disincarnati, e qualcuno che è interdimensionale, cioè in realtà noi vediamo, i colori sono come delle frequenze di vibrazione, noi vediamo soprattutto tra il rosso e il violetto. Se uno comincia a vedere sotto il rosso e sopra il violetto, pensano che è impazzito, no? Infatti molti bambini che vedono le mamme gli dicono, c'è un bambino iperattivo, un po' schizofrenico. Tu vedevi, la faccia, tu sei già partito che vedevi da bambino. Poi ti impediscono di vedere, o fanno finta di vedere anche loro. Tu dici, mamma, lo vedi il gatto blu? Lo vediamo, anche lo zio lo vede, anche lo zio. Poi alla certa età, gatto blu, non farlo scemo, non mi dire che vedi ancora il gatto blu, hai 15 anni, tra un po' ti devi sposare, lavorare, no? Devi farti una famiglia. È forte che gli dicono al bambino, devi farti una famiglia, ma se quella non ne può più di quella che ha, cioè uno non vede l'ora di uscire da quella dov'è, e gli dicono, vedi, devi fare una famiglia, no? No, perché in realtà la casta è genetica, no? Cioè, qui c'è la casta genetica, poi la casta dei soldi, uno nasce ricco, uno nasce povero. Quello che bisogna capire nel nascere qui è che i genitori sono delle persone meravigliose, perché si sono amati, alla meno peggio, per cui bene o male hanno avuto la stira fuoco. Quando uno è incarnato deve capire, ma qua cosa faccio io? Non chi sono, io mi sto rendendo conto che l'incubo della cultura occidentale è chi sono io. Ripete con me, io sono uno spirito eterno. Siamo spiriti eterni. Cosa siamo venuti a fare? Ora studiamo bene cosa siamo venuti a fare. Avete visto un bambino piccolo? Vuole, cosa vuole? Contatto? Contatto? Fisico. Lui cerca contatto fisico. Ma allora, se è vero che noi siamo preesistenti alla nascita, se è vero, allora uno perché fa tutta sta storia? Perché rinasce subito, abbraccia? Perché lo spirito fa quel gioco? Perché vuole affetto. E la prima forma di affetto che il bambino, che poi è un ex, ogni bambino non è bambino. Adesso a molti seminari vengono i genitori con i figli, magari portato tua nonna, non so, nel senso che arrivano questi bambini che capiscono subito. Io spiego le cose ai bambini, capiscono subito. Anzi, certi dicono, poi spiegaglielo pure a mia madre, no? Ho spiegato la canzone per i 6 anni, poi dico, dopo spiegherò a mia madre. La madre ha capito, e dopo te lo spiego a casa. Quindi loro cercano affetto, questi spiriti rinascono perché cercano affetto. All'istante della morte cosa cerca uno? Affetto. Tutti cercano. Poi a metà niente, mutismo. Io non so, ho abbracciato una, un'altra, ha detto, tua moglie cosa dice? Perché dici? Se abbraccio una brutta mi fa Giorgio, che gusti. Betulia, se abbraccio una brutta che dici? Ma cosa dici? Brutto o bello? Abbracciamo quello che c'è. Perché noi non ti rendiamo conto, ma vivendo tutto il giorno al chiuso, rispetto a quando si viveva all'aperto, c'è l'abisso. Cioè, in un secolo gli abitanti d'Europa sono passati dal 90% che erano all'aperto al 90% al chiuso, dove il 10% è andare da un chiuso all'altro. cioè il 10% all'aperto e poi andare da un chiuso a un altro chiuso. E quindi tutte le energie, il prana, non le piglia. Una delle parti che prende meno energia è i denti. È la cultura triste occidentale, seriosa. A me piace, faccio delle conferenze che la gente deve fare. A Giorgio hai fatto ridere, io spero che hai capito qualcosa. Quindi guarda che razza di meccanismo diabolico di tristezza avvolge chakra come una nebbia. La gente dice, cioè, apri chakra, ce l'ha annebbiato, cosa apri? I chakra sono dei vortici energetici che quando girano bene producono automaticamente buon umore, cioè l'umore, i liquidi, il sistema linfatico, il sistema cardiaco, tutto gira, i liquidi, l'umore, no? Gli umori. Alza il sistema immunitario. Le cellule non si contraggono, perché una delle cause dell'invecchiamento è che le cellule si contraggono a causa dello stress e dei radicali liberi. I radicali liberi sono delle microsostanze molecolari che entrano nella cellula e creano sabotaggio. Quindi, se uno cura l'alimentazione e vive nello stato di pace mentale, elimina stress e radicali liberi, la cellula si rilassa. Sta sempre allegro, sempre allegro. Giusto? Allora, perché il chakra del cuore? Allora, dicevo, i chakra non sono mai né aperti né chiusi, sono o accelerati o rallentati. Quando sono accelerati, uno brucia, proprio vive accelerato. Quando sono rallentati, c'è proprio con una nebbia, come quando uno sta per addormentarsi, no? Che vede tutto annebbiato, i suoni ovattati, rintronato, no? C'è il chakra rallentato. Quindi, con la paura, la colpa, l'inibizione, si prende la popolazione e la si tiene in uno stato di rallentamento energetico. Una delle cose rigide, William Reich diceva che gli occidentali, William Reich era tedesco, ebreo tedesco, non è che faceva l'orientale che parla mai di occidentale. C'hanno, dice, gli occidentali hanno la corazza caratteriale e il bacino bloccato. Infatti tutto cominciò nel 1961 con un ballo di Chubby Checker. Cominciò questo ballo, prima hula hoop, cioè qua, far girare qui, no? Con l'esercizio, e poi il twist, no? Girare, no? Perché qua era bloccato. Primo chakra, come on, let's twist again. Perché bocca rigido, no? Infatti, tu vedi le cose a mia, cioè qui rigido, la rigidità. I chakra sono flessibilità. Per questo che nello yoga dicono, se tu non riesci a sciogliere il corpo, vuol dire che sei rigido. Infatti, quando una persona è, diciamo, rigida, chi ci vuole andare? Sicuramente è un carattere rigido, no? Guardate un po', senza conoscere i chakra, come si definiscono le persone. Il secondo chakra, quello delle emozioni, è liquido, emozioni. Sicuramente è un tipo arido. Quello lì è rigido e arido. Duro, tipo tutti. I chakra sono energia e movimenti. Bloccare il chakra del cuore vuol dire bloccare uno in modo tale che quello non vivrà mai. Allora dice, come vivi? Scusi, siamo vivi. Quella che molti chiamano vita si chiama sopravvivenza. Sopravvivenza. Come si fa a bloccare il chakra del cuore? Impedendo il contatto fisico tra le persone. Per cui quando uno tocca un altro chiede scusi. Scusi, prego. Così è. Che piacere. Qui le persone si sfiorano. Io spesso sono in viaggio, di origine sono di Milano, c'è la famiglia delle Marche, ma stavano a Milano e sono cresciuto a Milano. Beh, a Milano se vai sull'autobus ci siete, altro neanche abbracciati a letto stanno così, il signore. Quindi rapporti zero. E credo che poi quest'uomo e questa donna tornano a casa e guardano i mostri. E i mostri. Ma non si può più dire, ah, la società crea i mostri, ah, la società. Io da quando sono piccolo che sento la società e il sistema. Ma tutti alibi, sei tu che crei. Ognuno di noi è responsabile di se stesso e di tutto quello che gli sta intorno, perché quello che gli sta intorno non è altro che il risultato del suo karma. Quando uno dorme ha quattro possibilità. O sogna, allora sogna, non so. Sembrava vero. Sogna quando è una cosa bella, ricca, creativa, appunto, fantastica, meravigliosa, non so. C'è chi vince lo scudetto, sognate come il fratello interista. Il marito interista. Anche tuo marito interista, cioè, abbiamo qualcosa in comune. No? Oppure un incubo, uno sogna tutte cose negative, gente che ha detto mi sparava. Da... Oppure uno ha ricordi di vite precedenti, oppure fa viaggi fuori dal corpo. Allora che cosa succede? Che se uno fa il viaggio fuori dal corpo, incontra una persona, pensa che l'ha sognata e poi la rincontra. Hai capito? Quindi, qui dobbiamo dare credito a Freud. Freud è stato un grande, perché nel periodo in cui viveva lui, gli hanno detto di tutti i colori, parlava di una zona che fa fatica a venire fuori solo perché ci sono i freni inibitori. Freud ha detto questa frase: se si abbassano i freni inibitori, la società, così come l'abbiamo concepita, crolla. Ha detto crolla, bravo. Cioè, allora, voleva dire, la società in cui viviamo è basata sui freni inibitori. Gliel'hanno detto di tutti i colori. Povero Sigmund, proprio... però alla fine della vita lui ha detto: ah, se dovessi ripartire non studierei più tanto la psicologia ma la parapsicologia. Quindi che cosa succede? Che noi, intorno a noi, non stiamo altro che creando le persone con cui siamo compatibili. Solo che poi uno gli va a dire a uno: ciao, come va? Come va che cosa? Mi dicono: ma che ci conosciamo? Dalle vite precedenti. Cioè, tutti quelli che sono in questa stanza hanno in comune molto più del fatto che sono nati in Italia, parlano italiano e sono da una conferenza. Molto di più. Solo che il riconoscere, la capacità di riconoscere è data dalla sensibilità. E la sensibilità si perde nel chakra del cuore. Come? Bloccando il contatto tra le persone. Dal 63 si sta aprendo uno spiraglio, perché innumerevoli persone hanno capito qui c'è qualcosa che non va nei rapporti umani. E che cos'è che non va nei rapporti umani? L'ipocrisia, la mancanza di rapporti. Basta pensare che noi abbiamo 5 sensi, quello del tatto e quello tabù, e quello fuori legge. Tu per abbracciare una te la devi sposare. Pensate che quelli che hanno più bisogno di abbracci non sono i bambini, sono gli adulti. Eppure cosa succede? Che sono a casa marito e moglie, abbraccia i bambini, c'è gente che abbraccia anche il gatto, però la moglie sta scolpendo. Perché? Perché c'è il concetto di proprietà, è quello che blocca il chakra del cuore, no? Cioè, se tu pensi che la moglie è tua, i figli sono tuoi, la patria è tua, Dio è tuo, tutto tuo, appena arriva un altro è nemico. Allora io consiglio a ognuno di noi, non ognuno di voi, ognuno di noi, ma prima ci liberiamo da questi condizionamenti, prima è meglio è. Quindi chakra del cuore. Il chakra del cuore è relazioni, aria, respirazione, contatto. Perché su 5 sensi uno è tabù? Perché dove passa di più l'energia? È vero che se io vedo una foto di uno, di una, mi entusiasma, ma mai come se l'abbraccia. Proviamo un attimo a pensare. In questa stanza ci sono corpi maschili, corpi femminili. Con quale facilità ognuno di noi può toccare o abbracciare l'altro senza pensare di turbare equilibri familiari, mentali, sessuali, sociali, economici. È bello, dicevo, vedere dei giovani liberi, ma li voglio vedere a 50, 60, 70. C'è un detto americano, gli americani hanno degli slang velocissimi, per cui dicono a 20 anni uno di sinistra, a 50 anni di destra, sembra buttata lì. Quindi il sistema dice hai 20 anni di sinistra, fatti la tua esperienza, poi dopo 50 anni fatti vedere gli ex, ecco quello, ho detto 68, ex 68, ma che cos'è 68, cos'è? Ex, dici ma tu sei un ex del 68, avevi i capelli lunghi, eh? Sesso libero, libero, libero. Ma guarda, il sesso se non è liberato è peggio, la peggiore repressione è il sesso non liberato. Perché almeno uno quando è represso sogna, invece quando uno non è liberato ed è convinto di essere libero, impazzisce. Capito? Quindi che cosa è successo? È stato favorito il sesso libero, ma non quello liberato. Ma da che cosa doveva essere liberato? Dalla gelosia, dalla possessività. Se un uomo e una donna si amano, meglio per loro, ma non devono smettere di amare gli altri, se no quella strettoia, il cerchio si stringe qua, uno strangolamento. Goebbels, il ministro della cultura nazista, ha detto ripetete infinite volte una bugia fin quando non diventa verità. Ma guarda che non ha capito la psicologia di massa. Ma capisci che anche i batteri hanno un'anima? No, le anime possono prendere il corpo di batteri, perché se tu la vedi anche i batteri hanno un'anima, e lì sai che fino a 700 anni dopo Cristo le donne non avevano l'anima, discussioni pazzesche, poi alla fine gli hanno dato l'anima, però un'anima, era un'anima influenzata dal diavolo, stai calma, stai... I negri non hanno l'anima. Dice, ma com'è che i bianchi accettavano che i negri fossero schiavi? Perché i preti gli dicevano che non hanno l'anima i negri, no? Ha fatto un film anni fa, vero? Mission, non so se l'avete detto. Dove c'erano questi qui? Il calcio di Udari, il cardinale gli fa, di le preghiere, fa, beh, anche i pappagalli parlano. Perché i gesuiti sostenevano che questi qui, i sudamericani, avevano l'anima. E il cardinale gli dice di no. Che ho fatto vero quel film. Poi l'hanno un po' romanzato. Il fatto era vero. C'è stata una discussione. Perché dicevano che gli indui non hanno l'anima, quindi anche se li ammazzi. Allora noi dobbiamo pensare non che gli animali hanno l'anima, è lì l'errore. Uno spirito può prendere qualunque corpo. Bisogna drammatizzare il fatto che ognuno di noi, se non sta attento, si ritrova in qualche corpo che non vuole. Hai capito? È come uno che entra in una stanza al buio, non vede l'interruttore, inciampa. Molti muoiono al buio. Vagano nel buio e rinascono al buio. Conviene da bravi giocatori di poker dire vedo, altro che il buio, vedo, è ora di vedere. Ci sono miliardi di esseri solo nella atmosfera terrestre, incalcolabile. Hanno trovato batteri a 40 km in altezza. Batteri. Quelli chi sono? Però sono emigrati. Emigrati, questa comunità. Spariamo sulla nostra. Questa è la realtà. Quindi, il fatto che ci siano più esseri umani vuol dire che ci sono altri esseri che non hanno preso altri corpi. È semplicissimo. La domanda è, ma tra tutte le forme, quella umana, quanto vale? La forma umana è quella da cui puoi andare o su o giù, mentre dalle altre vai su a scalare in automatico, qua puoi andare o su o giù. Ma come si fa ad andare giù? Vivi da animale, sviluppi una mente animale e rinasci animale, ti calza. Quindi attenzione, ognuno di noi con, ripetete con me così l'ho memorizzata, cos'è? Ripetete, con pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni. Sono cinque. Crea la realtà. Amen. Amen. Guarda, certi, ognuno di noi è padrone di pensieri, emozioni, parole, cibo, azioni. Gianni, come ti sei ridotto? Perché uno mangia male, pensa male, sente male, parla male e agisce malissimo. Tutto perché cuore, chakra del cuore, la conoscenza è il chakra del cuore. La conoscenza del chakra del cuore è semplice. Le tre parole, amore, amicizia e buona relazione. Prima parlavo con una gelosia. La gelosia è il frutto totale del patriarcato autoritario che, essendo maschilista, ha coinvolto molte donne. Le portatrici sane, per modo di dire, del maschilismo sono le mamme. Perché se le mamme si fossero rifiutate di accettare che i figli vanno in guerra, ma sapete quante mamme sono andate a ritirare le medaglie? O i resti, la spada del figlio. Non vedi mai manifestazioni di mamme contro la guerra, eh? Adesso no, ma una volta se il figlio era scartato dal militare, allora che disonore per la famiglia. E le antiche famiglie, almeno uno che doveva fare l'ufficiale, pronto a morire, bacio di mamma. Quindi non è che il maschilismo ha beccato solo i maschi. Magari. E qual è il motivo che becca le femmine? Cancro all'utero, cancro al seno. Quando una donna ha il cancro all'utero, cancro al seno, dice, vieni qua, sai di che cosa sei malato? Maschilismo. Perché l'intimità è tossica, è velenosa? Perché è negata. Perché cosa pensate? Che basta prendere un uomo e una donna e metterli in una stanza? E i morti e feriti che escono da quella stanza. Il chakra del cuore è la capacità di compassione, di capire, la capacità di capire che questo corpo è un capolavoro perfetto. Noi viviamo all'interno di un capolavoro cosmico, su cui, su questo corpo, ci sono influenze planetarie, lunari, solari e galattici, perché c'è un'energia che tiene tutta la galassia in rotazione, quindi fa ruotare pure noi. Se uno schiacciasse il pulsante al centro della galassia per 2 secondi, tutta la galassia schizza da tutte le parti. Quindi se noi siamo seduti qui è anche grazie alla forza centrale della galassia. Quindi questi corpi meravigliosi, questi capolavori, vengono considerati schifo. Infatti molti, dopo un po', dopo qualche anno di matrimonio, dico, guarda, ti voglio dire una cosa, cos'è? Mi fai schifo. E la fa, ah, guarda, io non te l'avevo detto. Io non te l'avevo detto prima per educazione. Ciacca del cuore. Amore, gioia, vita, condivisione, questo. L'universo si muove su delle leggi eterne ma semplicissime. Però la scienza ci sta arrivando con la complicazione. Però la complicazione non fa più testo. Se voi studiate veramente la fisica recente, quella teorica quantistica, è tutto semplificato. Non c'è più il perverso, il completo. No, non regge più. Si parla di disegno intelligente. Che però, tradotto in italiano, ha tradotto disegno e design, che design non vuol dire disegno, ma vuol dire progetto. Quindi non è il disegno intelligente, ma si parla di progetto intelligente. L'unica cosa da scardinare, l'ultima cosa è, e se Dio fosse plurale? Tu chiappa un teologo, digli che Dio è plurale, sa cosa ti dice? Dicono che Dio è un etrino. Dicono che Dio contemporaneamente è sia singolo che plurale. Ma dove l'hanno preso? Fammi la Bibbia, dove sta scritto? L'hanno presa da lì. Quindi prova più in là. Perché significa che la filosofia indiana è stata contaminata dall'Occidente, l'Occidente dalla filosofia indiana, per cui non si capisce più qual è la filosofia indiana. La filosofia indiana dice che c'è un'energia divina onnipresente, costituita dall'insieme di tutte le energie divine individuali, per cui quando Sai Baba dice io sono Dio, lo so, tu sei Dio, non lo sai, molti tornano in Italia e dicono sai che ho incontrato Dio? Scusa, ma l'altra frase non te la ricordo. Cioè, io ho visto un sacco di questi devoti di Sai Baba, dico, ma scusa, hai letto cosa dice lui? Sì, ma hai letto sotto cosa ha scritto? Che anche tu lo senti, lo sei dimenticato. Quindi qui ci sono miliardi di divinità in stato di amnesia. Sai cos'è, cara? Che io il meglio lo dico verso le 10, sai soltanto. Siamo in stato di amnesia perché non ci ricordiamo della vita passata. Cioè non ti ricordi, non delle vite passate, non ti ricordi che sei eterno. Non ti ricordi che sei eterno. Nella vita presente. No, quello da ricordare non è le vite precedenti, che sei eterno. Se uno mi chiedesse, dammi un esercizio per ricordare tutto, medita sul fatto. Proviamo a ripetere con voce calma: io sono uno spirito eterno. Per questo che l'incubo della cultura occidentale è l'illuminato, quando la cultura orientale parla di risvegliato, è completamente diverso. Però ce n'è uno, professore, Andrea Sareci, che proprio sono andato a cercare. Perché quando nel 1965 hanno fatto il Concilio Vaticano II, hanno scoperto, e lo leggete nel libro di George Arquette, un po' di promotion ci vuole, il libro di George Arquette, La scienza eterna dell'incarnazione, la reincarnazione non è stata fatta fuori dalla Chiesa, ma da un imperatore giustiniano. Quindi non è stata la Chiesa, lui l'ha imposto alla Chiesa, poi te lo vai a leggere. Allora hanno fatto un gruppo di studio per studiare la reincarnazione, che ancora non è arrivato a delle conclusioni certe, dal 65 oggi, anche perché i papi sono cambiati. E io però col papa precedente incontrai questo e lui mi disse questa frase: ma com'è che nessuno torna indietro a dircelo? E io aspettavo solo quello. Io sono tornato indietro a dirtelo. E allora? Sai dopo? Un po' di baci me lo dici. Eh? Un po' di baci se te me lo dici. Un po' di baci? Un po' di baci se te me lo dici. Invece non ti ricamare, potremmo ricamare. No, io, no, no, segui il discorso. Io ricordo le mie vite precedenti, io. In questa vita mi chiamo Giorgio Cerquetti, ricordo le vite passate. Alla fine siamo arrivati che la teologia cattolica ha detto che l'inferno è vuoto, no, magari i parroci non gli ha mandato il fax, però insomma, il vertice accetta che è vuoto. Il limbo non c'è, tant'è che si è deciso Ratzinger, ha detto qui, Wojtyla ha detto che l'inferno è vuoto, fammi di qualcosa. Ha tolto il limbo. Ratzinger, dopo due mesi che era eletto, ha tolto il limbo. E tutti quelli che erano al limbo, tutti fuori. Io mi ricordo mia nonna quando morì un bambino non battezzato, è andato al limbo. Povera nonna, boh, si dice non c'è neanche il limbo. Rimangono in due, purgatorio e paradiso. Allora ho detto, guarda, potremmo equiparare la reincarnazione al purgatorio. Cioè, il limbo è una zona accettata fino all'elezione di Ratzinger dalla Chiesa Cattolica. Se un bambino muore e non è battezzato va al limbo e quando c'è il giudizio universale viene portato a... Ecco, Ratzinger ha detto che non è mai esistito. Ha fatto un limbo, finito. Quindi tu dovresti, se tu non ricordi, trovare qualcuno che ricorda, ascolta, poi magari ti torna a mente una cosa. È chiaro? Non tanto. Scusa, cosa è che non ti piace? Non è tanto, cioè se tu mi racconti la tua vita passata, non puoi tornare in mente la mia vita passata. Chi ha detto che ti torna in mente? Io ho detto, se tu non fossi mai stato in Australia, parla con uno che è stato in Australia. Però tu dici, io finché non ci vado non ci credo. No? C'è gente che ha detto che i viaggi sulla luna è un film, ognuno dice la sua, però quello che dico è: prendi nota che qualcuno ricorda le vite passate. Per cui, se dopo domani, no? Siccome c'è un effetto risonanza, quando uno incontra qualcuno che ricorda le vite passate, stimola il ricordo, no? Se ce l'ha fatta lui, ce la faccio anch'io. C'è una risonanza energetica. Teilhard de Chardin non era uno stilista, era un teologo. Teilhard de Chardin parlava di noosfera. Sheldrake, che è stato in India, ha capito, ha chiamato campo morfogenetico. Che cosa dice? La filosofia indiana lo chiama Akash. C'è un quinto elemento che registra tutto, per cui se lui raggiunge un livello superiore di coscienza su questo pianeta, apre la strada che ci possa andare anche io. Per questo io ho scritto un libro, Gli antichi maestri sono ancora vivi, ma non perché è un romanzo, è un libro reale, perché è quello che ricordo io di una vita sull'Himalaya. Giorgio Cerquetti in una vita passata viveva sull'Himalaya, adesso vive in Italia, parla bene italiano e ti dice che ricorda le vite precedenti, punto. Vero, falso. A me va bene così. Io conosco delle persone che tramite le ipnosi sono tornati a rivivere stati molti di prima di essere vissuti. Conosco anch'io. Questa è la testimonianza che ho, però stasera sentendomi parlare di reincarnazione, eccetera, eccetera, rimango. Siamo tutti reincarnati. È chiaro che quello che lei mi parla del cuore, di quello che è l'amore, quello che permette, quello che crea, quello che può fare. Ma bloccando il chakra del cuore, tu blocchi le tue relazioni. Quindi, siccome i ricordi delle vite passate sono tutti legati a relazioni, e se blocchi le relazioni, cos'è? Magari chiami lei zia, quella fa zia di chi? Cioè, no. Cioè, se qui il chakra del cuore gira, no? Qual è il chakra successivo? La gola. Quindi quello che uno sente qua lo dice qua, no? Però se blocchi qui, la gola dice quello che scende di qua. Solo che se la mente non è chiara, sai cosa esce? Di tutto. Cioè, potrebbe venire il desiderio una volta che hai sentito proprio con precisione che ci avevi vissuto in questi luoghi, di ritornarci a vivere. E li riconosci. Sai quanta gente è andata in certi luoghi e li ha riconosciuti? Ci sono stati delle persone state in Egitto, ha riconosciuto i posti e ha scritto dei romanzi. Poi dei romanzi incredibili. Fece un film negli anni 50, sino all'egiziano, era perfetto, poi quello lì, però loro cosa fanno? Scrive un romanzo sull'Egitto, bellissimo, fanno i soldi, fatto il film, mica dice che era la vita precedente, lo dicono prima di morire, due giorni prima fa. Ho vissuto in Egitto, però oramai già il film è fatto, tutto fatto. E così. Cioè, molti viaggi, molte attrazioni o repulsioni sono dovute a rapporti positivi o negativi vissuti in vite precedenti. Ma a quante persone succede? Perché? Perché prima non viaggiavano, non c'erano gli aerei, non c'erano i passaporti. Io sono arrivato in India, 41 anni fa, non sapevo l'inglese, niente, però ero sicuro, India. Infatti mi sono ambientato subito. Non conoscevo nessuno che c'era stato prima, niente. Però seguivo Himalaya, infatti là giocavo in casa, no? Cioè, sono venuti anche dei miei amici che sono qua, a Rishikesh, e 41 anni, conosco meglio Rishikesh di certe zone d'Italia. Però, come allora, guarda, ci sono lì a Rishikesh delle comunità spirituali chiamate Ashram. Cioè, se c'è un maestro e casa sua dove sta, è un Ashram, no? Perché tutti possono andare, visitare, più o meno tutti, se segui certe regole. Io com'è allora? Io arrivo lì, occidentale, vestito d'occidentale, entro, subito vengo riconosciuto come un maestro. Come te lo spieghi? No, ma il fenomeno, ma risultato sinceramente. Cioè, mettiamo che tu fossi vissuto in Francia, sì, e facessi, e mettiamo che tu una vita passata facevi sommelier in Francia. Insomma, vai lì, entri nel più grande ristorante di quelli, s'accomodi, carissima. E ma come mai? E ti abbiamo riconosciuto. Allora, siccome la sommelier non c'è la reincarnazione, è strano, ma là che c'è la reincarnazione ti abbiamo riconosciuto, no? Cioè non è contro la loro cultura dire ti abbiamo riconosciuto, capito? Cioè non capito che non è contro la loro cultura, per cui capisci, un indiano mi tratta a me come suo maestro, eppure io non sono indiano, non vado vestito da indiano, non ho la barba, i capelli lunghi, ce li ho avuti le prime volte ad Adamia, ma adesso entro, mi trattano, cucina, prepara, lungi, no? Ma come mai non scatta il desiderio di tornarci a vivere se c'è il ricordo così preciso e anche questa modalità di riconoscimento? Oh, siccome io mi aspettavo da un pezzo questo, leggi ad alta voce cosa c'è scritto qui, leggi ad alta voce. Ad alta voce? Sì, sì, no, lo conosco. E leggi ad alta voce. Giorgio Cerpetti, ovunque. Ecco. No, sotto Giorgio Cerpetti. Spirito libero. E sotto? Ovunque è casa, l'universo è la mia casa. E allora dove devo andare? Scusa. No, ma io parlo. Cioè, questi no, dici come mai non ti dici, come mai. Ovunque è casa. Allora, io spiego, il paradiso sono i pianeti superiori, capito? Ci sono, nell'universo, c'è un universo spirituale e tanti universi materiali con livelli superiori e inferiori. Quello che chiama il paradiso, la visione paradiso, sono i pianeti superiori. Allora, se non si comporta bene, va là, pensa lei. Quello che lei non sa è che se mangia la carne non ce l'ha il paradiso. Chi uccide altre entità viventi e non va in paradiso, perché per andare in paradiso devi andare col cuore puro. Quindi io vi consiglio, non ammazzate nessuno, né mogli, né mariti, né animali. Pascalito, faccio la sequenza. Quindi non è tanto che dice le donne vedono, gli uomini vedono. Il corpo è perfetto, perché uno si ammala? Lo sai, uno degli insegnamenti dello yoga, perché per yoga poi adesso tutti pensano ai palestre, ma il vero yoga, l'antica filosofia indiana, il Veda, dice: volete morire bene, allora il consiglio è cerca di morire in buona salute, che è esattamente siccome qui nessuno muore, attenzione, qui nessuno muore, sono tutti obbligati a morire, ecco la differenza, perché l'energia è bloccata nei chakra inferiori, dove dominano paura, colpa e inibizione. Questa è la gelosia che respinge l'energia, ma se l'energia va nei chakra superiori, allora come succede? Se l'energia va nei chakra superiori, scopri che tu sei eterno, ogni essere eterno, ogni essere ha diritto alla vita. Ci conosciamo tutti da innumerevoli incarnazioni. Nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte, questa è una di quelle. Bisogna sdrammatizzare, perché se uno vedesse che cosa ha fatto nelle vite passate, gli piglia un colpo. Dico, no, Giorgio, dimmi cosa. Mamma mia, stendiamo un velo pietoso. Perché che cos'è le vite passate? Se uno nasce e non ha la conoscenza, è sicuro che nella vita passata non aveva raggiunto un livello superiore. Quando uno ha raggiunto un livello superiore di coscienza, qualunque sia il momento della morte, entro i prossimi 10 anni ricorda le vite precedenti. Sicuro, automatico. Se non lo ricorda, vuol dire che è morto in stato confusionale. È stato dalla morte alla rinascita in stato allucinatorio, rinasce intontito e là che dice. Per aprire il chakra del cuore bisogna tornare all'estasi, perché l'estasi è il nostro stato naturale. Quindi accosti e farvi prendere la schiaffia, abbracciate tutti. Poi la schiaffia, prima prendono la schiaffia. Il chakra del cuore non va in sovrappeso, perché il sangue gira, l'energia gira. Perché la maggior parte delle donne dopo il matrimonio vanno in sovrappeso? Perché il chakra del cuore rallenta. Rallentando il sangue non gira, il cibo non diventa energia. Però persino la Bibbia dice che una volta c'era il paradiso qua. pare che sia Adamo e Eva maschile e femminile, poi si è rotto il meccanismo, ma dove si è rotto? Nel chakra del cuore. Hanno cominciato a vestirsi, il maschio ha detto che la donna è inferiore, il serpente di cui questi parlavano, questi figli del serpente, è la kundalini, è l'energia che sale, kundala vuol dire serpente in sanscrito, che sale. Quindi la donna come corpo fa salire l'energia. Perché diciamo che uno ha vissuto in stato confusionale. Ma chi è questo? Lo conosci o ti stai inventando uno? In stato confusionale prima di incarnarsi in questo, quindi è un po' in stato confusionale anche quando nasce, diciamo, finché figlio di persone in stato confusionale. Questo famoso libero arbitrio che noi abbiamo, la coscienza di scegliere, fare, di prendersi la responsabilità di quello che... Se uno è in stato confusionale, penso che non abbia questa responsabilità. Ma vedi, l'ubriaco nessuno lo obbliga a bere, lui sceglie di bere e perde la bussola. Chi è sempre padrone di fare... No, tu il libero arbitrio lo puoi anche perdere, perché sennò che libero è? Se lui lo perde, fa parte del suo libero arbitrio perderlo. Il libero arbitrio è così libero che lo puoi perdere, se no che libero è? Sarebbe libero condizionato. Solo che nell'eternità c'è una cosa che nessuno può perdere, l'eternità. Anche nel cambiare, nel rivoluzionare, bisogna mettersi in gioco. Il libero arbitrio è come una camicia, se tu non la lavi mai non puoi dire che la camicia non è mai stata pulita. Puoi dire è anni, analizzando le macchie, questa è anni che non viene lavata. Allora, il libero arbitrio è uno stato della mente lavabile, quindi il libero arbitrio va tenuto libero, e allora è una questione di sensibilità. La vita è una questione di sensibilità, come dicevo, sopravvivere, perché uno perde la sensibilità e pensa solo a quattro cose: mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. Sono i tre chakra. I primi tre chakra hanno questa funzione: mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. Quindi dice, l'Italia è una repubblica fondata sui primi tre chakra, e con tre chakra vai come un treno dalla nascita alla morte, ma tranquillo, ti ferma nessuno. È come una Ferrari che va a marce basse, vai. È mica reato se uno con la Ferrari va a 50 all'ora, no? Non è reato, però non è la sua natura, direbbe qualcuno. Allora la nostra natura cos'è? Mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. Siamo qui per amare, per imparare ad amare ogni giorno meglio. Qual è l'incubo? Il corpo. Il corpo. Cioè viviamo in corpi estranei, stranieri in terra straniera. Ricordatevi che la prima qualità di un'anima realizzata è il senso dello yoga, che se non è quello... Quando la gente dice porta pazienza, meglio di porta humor più che pazienza. Ridiamoci su, se no è una tragedia qui. Milioni di esseri, mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. Allora, ma difendersi da che cosa? Da chi ti fa credere che c'è pericolo? Paura, paura, paura. Ridiamoci su, ma nello stesso tempo cerchiamo di capire che questa valle di lacrime si può ritrasformare nel giardino dell'Eden. Allora, chi è un maestro spirituale? È quella persona che ti riporta a te stesso. Cioè, ma come ti riporta a te? Sì, perché tu ti sei allontanato. Sembra un paradosso che uno si allontana da se stesso e vive. Ma come vive? Si chiama schizofrenia, no? Dissociati. Mangiare, dormire, riprodursi. Cioè, come va? C'è gente che dice come va? Ci difendiamo. Mangiare, dormire. Terzo, perché c'è anche nel cuore, è il quarto. C'è gente che si fa tutta la carriera con terza. C'è gente che mette su famiglia, aziende, tutto, politica, tutto con primo, secondo e terzo. Pensate che ce ne sono altri quattro, e questo è il chakra mediano, che nella interpretazione esoterica di Dante, perché Dante si è inventato tutto, nel senso lui ha scelto Virgilio come guida che non era cristiano, e gli inferi, l'Ade, gli inferi, l'inferno, una volta si chiamava inferni, poi non so come l'ha fatto plurale, però sono i chakra inferiori dove domina il rosso. Questo è il purgatorio, e infatti il chakra dove uno sente le emozioni, no? Le emozioni, feelings, no? Sentimenti. E i chakra superiori sarebbero il paradiso, celestiali, celeste, azzurro, violetti, tutto che è etereo. Quindi tu dove blocchi uno? Il chakra del cuore, le relazioni. Come facciamo qua a uscire da questo blocco? E dice, ah, sono in stato confusionale. Purificare pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni. Io sempre che metto questa maglietta, perché sono un bagnino cosmico, faccio salvataggi cosmici, sono dei bagni amore e buona energia. No? Sai, sai Veda come chiamano il ciclo delle reincarnazioni? Lo chiamano l'oceano dell'esistenza materiale. La maggior parte delle persone dalla nascita alla morte sono in stato confusionale. Quando lasciano il corpo passano allo stato allucinatorio della mente, perché il calmante è il corpo. Una volta che non è più il corpo che fa da ancora, da punto di riferimento, qualunque cosa immagini avviene. Per cui se hai pensieri negativi, inferno. Se hai pensieri belli, sì, poi dici non me lo merito, svanisco. E Fabrizio, tu pensi Miss Universo, però non me lo merito. Dov'è? Avete visto Miss Universo? Cioè uno boom boom boom, perché il corpo, per quello che quando si sveglia l'ego fa, ah, è stato un ego, perché il corpo va lento e la mente va veloce. Quindi lo stato confusionale è che tu sei sempre riferito al corpo, per quello che anche chi c'è i corpi più disgraziati non li vuole lasciare, perché ha paura della propria mente, allora si aggrappa come la zattera il naufrago, si aggrappa sto corpo sulla carrozzella lì paralitico, ma lascialo, no? No, ho parlato con le chiedi, ma lo vuoi lasciare? Paura. Ma di che cosa? Di te stesso, hai paura di quello che vedi, hai paura di quello che stai immaginando, ma è un viaggio, il viaggio continua, il viaggio continua. Chi ha paura della morte? Solo chi l'ha già vissuta male. Ma cos'è che vuoi sapere? È tutto semplice, semplifica. Se esci di lì, dici, ma cos'è il tuo Giorgio Cerquetti? Semplifica. Hai capito? Questo è il messaggio. Tutte queste complicazioni, arriva di qui, arriva di là, stringe, cosa da stringe. Sto spiegando che siamo qui per giocare, che Gesù li chiamava cieli, chakra li chiamava cieli, amatevi come vi ho amato, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma come possiamo dire alle persone ama il prossimo tuo qua se nessuno si ama? Infatti molti mi dicono, ma mi consigli quella là, mi consigli quello lì? Io i consigli che do a uno che vuole entrare in una relazione di coppia è semplicissimo. Vuoi stare con quella lì? Ti piace? Sì. Vuoi essere certo? Sì. Guarda come lei si tratta. Perché se lei tratta bene te e male lei, prima o poi tratterà male anche te. Vedrai, ci puoi rimettere il calendario. Quindi se vuoi stare con qualcuno, guarda come si tratta. Perché come si tratta, tratterà te. Ma non lo fa apposta, perché non sa amare. Quindi dici, come fai a dire a uno che non sa amare, ama il prossimo tuo come te stesso? Quello, ma perché non insegnano il come te stesso? Però il fatto è questo. Amati, sembra un reato. Se dice uno amati, egoista. Ma l'egoista non si ama. L'egoista non si ama. L'egoista è uno che pensa di accaparrarsi più situazioni possibili per lui. Ma non si ama mica. Perché chi si ama si regala la cosa più bella. E qual è? Il tesoro. Qual è il tesoro? Qual è il tesoro? Ho detto preso, no? Che quasi. chi trova un amico, e quindi l'egoista non ha amici, quindi che cosa, quello lì, quando con lui sta bene, però è perché è egoista, quello sta malissimo, perché non si regala amore, amicizia e buone relazioni. Provate a separare amore, amicizia e buone relazioni, non avete né amore, né amicizia, né buone relazioni. Queste tre parole, amore, amicizia e buone relazioni, sono uguali. Sono tre facce della stessa realtà. Quindi se in un'amicizia non c'è amore, non è amicizia. E se in un amore non c'è amicizia, e se la relazione non è buona, vuol dire che non era né amore né amicizia. Allora uno dice, è finito l'amore? Vi dico io la frase da dire a chi dice che è finito l'amore. Non era mai cominciato. L'amore è l'accettazione totale della libertà dell'altro. Pensate, l'accettazione totale dell'individualità. La forma umana è come l'ascensore. Puoi andare su o giù. Ma il punto non è chi eravamo, cosa vuoi diventare, perché quello che pensi, i pensieri, le emozioni, le parole, il cibo, le azioni determinano il tuo divenire. E perché il chakra del cuore è importantissimo? Perché quello delle relazioni è quello dei rapporti umani. Non è tanto quello che vuoi diventare, ma il problema reale, più profondo, è quello che sei veramente. Perché voglio anche, posso anche provare a diventare questo o quell'altro, ma voglio dire, quello che mi interessa veramente è sapere quello che veramente sono. Tu sei un'anima eterna che stai giocando con le identità plurali. Adesso hai un'identità Claudia, potrebbe svanire in un secondo e non lasciare ricordi nitidi, ma solo tracce. Tracce. No? Come vedo un ubriaco, ha trovato tracce di alcol nel sangue. Allora, come l'alcol rimane nel sangue, le tracce delle vite precedenti rimangono nei chakra. E quale chakra viene bloccato? Quello del cuore. Perché se tu qua riconoscessi qualcuno dalla vita passata, dove viene il blocco? Nel chakra del cuore. Perché non c'è la spontaneità di andare da uno e dirgli, secondo me io e te ci conosciamo da una vita passata. Quella spontaneità, quell'abbraccio, quel feeling viene dal chakra del cuore. Il cuore riconosce. Ma se tu blocchi il chakra del cuore, hai creato milioni di handicappati. Quindi, chi sei tu eternamente, come ognuno di noi, un'anima eterna? Chi sei tu adesso? Claudia, parla italiano, sposata, compagna, zia, nonna, vedova, amante, così. Ma tutte quelle identità sono tutte temporanee. Cioè, in questa vita sono nato in Italia, in questa vita è nato in Svizzera, in questa vita è nata in Cile, nella vita passata era Monsignore. Cioè, capito? Ma cosa facciamo? La carriera? Cioè, te... Allora, uno arriva e gli presentiamo il curriculum. Quando lo spirito eterno perde la conoscenza è come una barca alla deriva, senza timone, va dove lo portano i condizionamenti, perché non esiste l'immobilità nell'universo, niente è fermo, è tutto in movimento. Ci sono solo due movimenti, quello consapevole e quello condizionato. Quindi molti vengono anche chiamati anime condizionate perché non scelgono più, hanno talmente esagerato con il libero arbitrio, si sono fatti delle overdose di falsa identità che non sanno più chi sono. Quindi la domanda, chi sono veramente? Sei un'anima eterna che ha un corpo, studia il raccolto e capirai la semina. Ripeto, non capisci cosa hai seminato, studia gli effetti e risale alle cause, ma da oggi fermati, pensaci bene prima di esprimere pensieri, emozioni, parole, cibo, azioni. Stai creando la tua realtà. E non dire che uno pensa, io sono italiano, sei momentaneamente italiano, sei momentaneamente donna, sei momentaneamente pensionato, sei momentaneamente tutto momentaneo. Però il piacere di relazionare viene dal chakra del cuore, ovunque casa. Io vivo nell'universo, anche noi, cioè qui nessuno è fuori dal gioco, ognuno di noi in ogni momento vive in un punto dell'universo e sta vivendo un momento dell'eternità. Se il chakra del cuore gira bene, viviamo in un punto dell'universo, in un momento dell'eternità, con gioia. Allora, io sono venuto qua perché mi fa piacere incontrare delle persone meravigliose che sicuramente, sicuramente, vogliono capire che il gioco è fattibile in modo positivo, con amore e con gioia. La conoscenza non deve essere né pesante, né triste, né noiosa. Quindi sdrammatizziamo questo corpo, visto che poi è l'unico che abbiamo. C'è qualche domanda? Io volevo chiederti una cosa sulla rottura degli schemi. Hai fatto all'inizio, mi è rimasta questa. No, non ho detto. Non rompere. Gli schemi vanno cambiati. Capito? Come le gomme, cioè le gomme lisce, cambi, non è che le rompi. Bisogna andare. È molto semplice, la formula è semplice, ripetetela con me. Pensieri ed emozioni ripetute creano le abitudini. Ripetute creano il carattere. Quindi se vuoi un carattere diverso, non alimentare più pensieri ed emozioni negativi. Quindi pensieri positivi ed emozioni positive ripetute creano abitudini positive, le abitudini positive ripetute creano un carattere positivo. Tutti promossi, per usare il linguaggio, tutti promossi. Oh, prima di andare via, una bella frase, metti che è l'ultimo giorno di questa vita episodica, perché poi la vita, dice vita o morte, no, nascita o morte, perché la vita continua anche dopo la morte. Ripetete così, dite, con voce serena, io sono innocente, mi assolvo. Gira pagina, come dice, questo è l'equivalente del pentimento cristiano, del perdono, assolviti. Gesù dice al ladrone, pentiti, assolviti e sarai presto nel regno dei cieli. Ma se tu vedessi dei lebbrosi che ridono, senza dita, senza il naso, quando, perché loro hanno capito, l'ho creato io, pensa che flash. Cioè vedi uno indiano zoppo che dice, ma cosa dite? Ha capito che l'ha creato lui, io davanti. È come la torta, dice, non è buona, e chi l'ha fatta? Non si sa, come l'hai fatta tu? Cioè loro si prendono la paternità nel bene e nel male e quindi stanno leggeri. Noi abbiamo identificato tutta la vita col corpo, per cui appena il corpo, scusa, è una botta secca, quando il corpo viene ucciso, questo è l'abituale inquisizione, quando il corpo viene ucciso è finito, no? Uno è morto, dicono in un incidente, non so, lui muore, stava insieme a lei, ma lei come diciamo che lui non c'è più? Ma lui c'è ancora, bisogna dirgli che lui ha lasciato il corpo. Ecco l'indiano cosa ha capito. L'indiano invece che gratta e vinci, gratta e vedi. Se gratti l'indiano, vedi la filosofia indiana. 1.200.000.000 di indiani lo sanno bene cos'è il karma. Poi magari fanno finta di no, però glielo vedi in faccia che lo sanno. Qui avendo tolto questo concetto, uno è stupito. Due minuti spiego l'ultimo concetto fondamentale assolutamente. Prima di andare via, cercate di abbracciare qualcuno, qualcuna. Non è reato, ancora, non è reato. La terapia dell'abbraccio alza il metabolismo, alza i muscoli facciali. Quando abbracciate qualcuno, dite ti voglio bene. Proviamo a dire questa tre volte, la diciamo, con voce leggera. Proviamo a ripetere questa frase. Tra di noi c'è amore, un bel respiro. Vediamo voce ancora più leggera. Tra di noi c'è amore, un altro respiro. Una volta diciamo ancora, tra di noi c'è amore. Adesso chiudiamo qui, ci alziamo in piedi e abbracciamo almeno uno. Thank you.

la prima cosa da realizzare per intraprendere la vita spirituale. E cioè che noi non siamo questo corpo. Diciamo che sotto molti aspetti questa è veramente una bella notizia. E no, noi non siamo questo corpo, siamo anime spirituali eterne e non abbiamo niente a che fare con i dolori che ci provoca l'essere imprigionati in questo corpo materiale con tutti i suoi difetti che ben sappiamo, o meno che dovremmo ben sapere ormai. Il corpo, la sua caratteristica principale è che finisce, una cosa proprio che non c'è nulla da fare, sebbene che l'umanità da sempre ha tentato di porre rimedio a questa caducità del corpo. E a questo proposito, allora direi di passare subito a sentire da uno spezzone di un programma di Krishna Prema Das. Che cosa ci dice su questo argomento particolare? Una delle tante manifestazioni di questa, così, di questa falsa identificazione, di questo sforzo costante che le persone fanno per rimanere attaccati all'elemento visibile di se stessi, l'elemento che poi in realtà poi viene distrutto dal tempo, è per esempio quella di milioni di persone che spendono per esempio grandi somme di denaro, e questo così ogni anno praticamente, in una battaglia che è già persa in partenza, questo è incredibile, no? Per quella per prevenire, cancellare o nascondere le rughe. Pensate. Le donne soffrono di questo inconveniente più degli uomini, sebbene nessuno ne conosca il motivo. Il motivo è chiaro, non è che... il motivo è chiaro. Comunque andiamo avanti. Le rughe appaiono quando, con l'avanzare dell'età, chiaramente le persone invecchiano e lo strato più profondo, cosiddetto sottocutaneo della pelle, perde parte dei suoi depositi lipidici. Privati di questo morbido supporto, gli strati superiori cominciano a cedere e a corrugarsi. Allora, quando entriamo nella descrizione così un po' più scientifica di quella che è la costituzione reale della nostra macchina, il corpo, si diventa sempre meno sentimentali. Cioè, questo ci riporta molto alla condizione reale, cioè a veramente analizzare e avere un'idea più precisa di quello che è in effetti il nostro corpo. Contemporaneamente, dopo che questo morbido supporto appunto perde parte dei suoi depositi lipidici e quindi gli strati superiori cominciano a cedere, a corrugarsi, contemporaneamente nello strato intermedio della pelle il derma, una proteina, il collagene, comincia a irrigidirsi, come si fa allora? Coraggio, coraggio! Che se tutto va bene, ascoltando RKC, la prossima vita non dovrete prendere nessun corpo materiale. Il collagene conferisce normalmente alla pelle la sua resistenza ed elasticità, ma quando le molecole di collagene si organizzano in una struttura rigida, i cedimenti e le pieghe si fissano e queste sono le rughe. We'll be right back. A peggiorare le cose, l'invecchiamento comporta un deterioramento progressivo nelle ghiandole subacee e sudoripare del derma. Le secrezioni combinate di queste migliaia di ghiandole lubrificano la pelle giovane e la mantengono elastica e morbida. Quando invece la secrezione diminuisce, la pelle si inaridisce e si corruga. Nessuno, pensate, nessuno, nonostante i nostri progressi, sa perché le ghiandole cutanee si atrofizzano o i depositi di grasso scompaiono. Pensate, con la nostra tecnologia, la nostra grande scoperta, le nostre grandi scoperte tecnologiche, le bombe, sì, sappiamo tutto, il potere distruttivo è arrivato, non ha più segreti per l'uomo. Però, per quanto riguarda una cosa così stupida, come capire come mai una parte del corpo si deteriora con l'andare del tempo? Bah, lì è c'è il grande mistero. Però ecco che arriva Anthony Cheramy della Rockefeller University di New York, che pensa, qui siamo sempre allo stesso punto, pensa di aver scoperto il motivo per cui le molecole di collagene si irrigidiscono. Siamo sempre qui, e questi scienziati danno sempre dei falsi allarmi, dicono sì, ci pensiamo noi, non vi preoccupate, adesso magari non è ancora possibile, ma nel futuro senz'altro troveremo la soluzione. E allora questo signore, questo esimio Anthony Cheramy della Rockefeller University di New York, pensa di aver scoperto appunto il motivo per cui le molecole di collagene si rigidiscono. Il processo viene chiamato imbrunimento non enzimatico ed è simile a quello per cui un volatile si rosola al forno. Purtroppo sappiamo bene che molti di voi hanno esperienze di questa attività, cioè rosolare un cadavere di uccello al forno, pollo, qualche tacchino, poi la cacciagione, eccetera. Purtroppo questa fa parte un po' delle abitudini, delle brutte abitudini che siamo abituati ad avere, di conseguenza a una indicazione di vita sbagliata. Abbiamo detto molte volte che uccidere non è buono, lo dice anche il quinto comandamento tra l'altro. Comunque, uccidere non è buono perché questa sofferenza che questi poveri animali devono sentire su se stessi, naturalmente poi qualcuno dovrà pagare questo conto, e il conto ricade inesorabile, guardate bene, non c'è modo di sfuggire, su coloro che fanno uso di questi cadaveri come cibo abituale. Andiamo avanti. In presenza di calore, dice Cheramy, che mi sembra un po' più magari un oriundo italiano, lo zucchero contenuto nei tessuti dell'animale agisce da collante, legando una all'altra le proteine della pelle, e il volatile diventa bruno e rosolato. Il calore corporeo da solo basta innescare questo processo nell'uomo, ma poiché il calore del corpo umano è ovviamente molto inferiore a quello dei forni, adesso magari ci dicono che bisogna mettersi nei forni, andiamo avanti. Il processo è molto lungo, Cheramy afferma che il collagene della pelle delle persone anziane è effettivamente bruno giallastro, mentre il collagene più giovane è bianco. Giallastro, Lo scienziato americano ipotizza che la rigidità dei tessuti associata all'imbrunimento non enzimatico contribuisca a determinare alcune delle malattie tipiche dell'invecchiamento, come l'arteriosclerosi, la cataratta e l'artrite. Non è in grado però di consigliare nessuna terapia, e qui casca l'asino, il famoso asino, speriamo che non caschi, sebbene abbia osservato che alcuni conservanti alimentari possono ritardare il processo. Ritardare il processo. Adesso chissà quanti penseranno, oh, se non altro posso vivere bello per qualche anno in più. A parte ciò, solo il lifting è in grado di eliminare le rughe. Il lifting è un'operazione chirurgica che fanno. Lubrificare la pelle può essere anche d'aiuto, ma i preparati più complicati non sono più efficaci del semplice olio. Quindi inutile di farvi, non fatevi imbrogliare ancora di più da persone che vi dicono che con questo prodotto, l'altro prodotto, senz'altro ritornerete giovani e belli. Per quanto riguarda le creme al collagene e all'elastina, Roger Brooding, che è un dermatologo della facoltà di medicina del New Jersey, consiglia di non farsi illusioni. Oh, finalmente una persona che parla chiaro. I miglioramenti non possono essere che temporanei. È proprio così, come tutte le cose che vengono a galla dall'esperienza di così essere coinvolti in questa dimensione materiale, anche questa proprio ci dà la risposta e ci dà una chiara visione di quella che è la caratteristica fondamentale, trainante, principale dell'energia materiale, cioè la temporaneità. Non c'è niente di eterno in questo mondo materiale, non c'è niente che dura più di un tot numero di anni o addirittura di minuti, di secondi o di giorni, dipende. Quindi attaccarsi a qualcosa che ha questa caratteristica è praticamente un suicidio, perché è garanzia assoluta che questo oggetto dei sensi, questo oggetto che può darci questo pseudo felicità, prima o poi se ne andrà, scomparirà. E quando scompare, chiaramente se uno è molto attaccato, soffrirà. E l'amore diventa immediatamente sofferenza. Ed è questa proprio la faccia reale del mondo in cui viviamo, una faccia duale come una medaglia che da una parte presenta così una pseudo finta felicità e dall'altra invece così ci dà l'idea reale di quella che è l'opposto della felicità, e cioè la vera sofferenza. Quindi lasciamo perdere, non facciamoci ingannare da questo fantasma, ma cerchiamo di mettere le mani su qualcosa di più sostanzioso, qualcosa che ci dia la certezza di poterlo avere a disposizione sempre, e qualcosa e qualcuno sulla quale noi possiamo contare veramente sempre, in qualsiasi momento, per organizzare e per direzionarci e per darci dei consigli su come organizzare la nostra vita. Un maestro spirituale, una persona realizzata, una persona che è un puro devoto di Dio, perché? Perché segue le indicazioni. E allora la nostra vita da quel momento sarà perfetta, perfetta. Come? Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Sì, è l'unico modo per andare veramente fuori dal tempo, almeno di questo tempo, da questo tempo che ci scandisce questa vita materiale, in questo universo materiale. Carissimi amici, è proprio solamente la coscienza di Krishna. Ritrovare questa conoscenza, questa conoscenza che noi non siamo questo corpo, che siamo anime spirituali, frammenti eterni di Dio Krishna, la persona suprema. Solamente in questo modo potremmo risolvere i nostri problemi di eternità. In effetti, essendo eterni, chiaramente siamo, per questo motivo siamo continuamente desiderosi di acquisire questa nostra effettiva qualità di cui siamo effettivamente in possesso. L'unico errore è appunto che vogliamo mantenere nell'eternità questo corpo con cui siamo erroneamente identificati. Beh, Bene, e adesso passiamo a un altro breve spezzone che tratterà di un argomento che è legato, diciamo, a questa identificazione con il corpo. Un argomento sempre interessante. I bambini, i figli, queste nostre, diciamo, espansioni materiali. Veramente il modo di vivere questa esperienza di genitori, di figli, i modi sono tanti nell'ambito materiale, però i devoti di Krishna hanno, diciamo, la visione più chiara e più logica di cosa significa essere padre, di cosa significa essere figli. Ma andiamo a sentire Mirabai Devidasi che cosa parlerà dei bambini. Bambini che nascono, piangono. Bambini che sono spesso la speranza dei loro genitori. Bambini che diventano una fonte di sofferenze per i loro genitori. Bambini, bambine. Come voi avete sentito, la fiera non aveva illusioni per la sua figlia, no? Ma non ne aveva tante aspettazioni da lei e poi, adesso, essendo che lui ha la sua vita da fare e anche lei ha la sua, non sembra molto disturbato dal fatto che i loro sentieri non incrocino mai. Ma lì siamo non così spesso. La sua posizione è una posizione unica, direi. Ma diciamo, non troviamo così spesso genitori che sono resignati o almeno consapevoli del fatto che dai figli non si può veramente aspettare niente. Chi non è cosciente di questo fatto soffre. Vediamo le mamme che si sentono abbandonate dai propri figli, padri che sentono come il figlio non ha mai rispettato lui, non ha mai preso in considerazione i suoi desideri. E d'accordo con una vecchia conoscenza vedica, i figli sono animi affidati ai genitori. In questo affidamento c'è anche un dovere di informare questi figli sulla vita spirituale, di aiutarli di non prendere un'altra nascita in questo mondo materiale, di dargli una gioia, una pace, una tranquillità e anche una conoscenza che serve per aiutarli di vivere meglio in questa vita e anche di prepararci per la prossima. È inutile vedere i bambini come giocattoli o l'estensione del proprio corpo, la proprietà proprio. No, sono animi spirituali, eterni, proprio come noi. Sono stati in giro per milioni, miliardi di anni, proprio come noi. E in questa volta, in questo giro, potessi nascono o vengono al mondo come i tuoi figli. Ma questo non è l'inizio, diciamo, della loro esistenza. E quando loro lasciano questo mondo, questo corpo che tu hai aiutato a dargli, questa non sarà neanche la fine di loro, ma neanche di te. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. E a proposito di bambini, di persone, di anime che prendono un corpo, che si reincarnano in un corpo che occasionalmente possono essere genitori, figli, anzi sicuramente saranno prima l'uno, poi l'altro, e che quindi l'unico legame, diciamo, è una coincidenza di karma. Karma è la famosa legge di azione e reazione, che in ogni vita così si fa, si tira il conto, si tira la somma delle azioni della vita precedente, e così si rinasce in determinate situazioni come figli di qualcuno e poi come genitori di qualcuno. Anche questo, l'argomento della reincarnazione, è un argomento molto interessante, basilare. Reincarnazione che, fra l'altro, è accettata, diciamo, da migliaia di studiosi in tutta la storia. Da sempre i personaggi importanti hanno accettato questa reincarnazione, questa, diciamo, spiegazione di cosa succede all'anima dopo la morte. Così come cosa logica e veramente molto soddisfacente come spiegazione. Sentiamo sempre da Mirabai Devidasi, da un'intervista, qualcosa su questo argomento. Questo volevo chiederti, che cosa pensate della reincarnazione? Della reincarnazione? Ma quella l'ho sempre creduta già prima. Mm. Quella è una cosa alla quale ho sempre creduto, che esistono anche dimostrazioni. Al di fuori di questioni religiose esistono già delle dimostrazioni. Sì. Quindi quella è una cosa, soltanto che quello che mi mancava era un concetto filosofico che l'accettasse. E anche che me la spiegassi in modo che io possa accettare. Sì. Inoltre, una concezione religiosa che mi metta anche in armonia con me stesso, con quello che mi circonda, con quello che voglio essere e con quello che posso essere. Quando ho raggiunto quell'equilibrio, allora l'unica cosa è ringraziare il metodo, il sistema o quella cosa per cui ho raggiunto questo equilibrio. Sì. Ecco. Già, la vittoria, sei arrivato. Allora, chiediamo a tuo fratello, Marco. Sì, a proposito della reincarnazione, io devo dire una cosa molto interessante, però non ricordo la fonte. Io sentii dire che Bonifacio VIII, famoso papa della cristianità, adesso non ricordo, visse probabilmente intorno al 1300, diceva che inferno e il paradiso non esistono come entità a parte, come, diciamo, cose, luoghi a parte da questa vita, ma sono in questo mondo, inferno e paradiso. Mm-hmm. E questo qui mi ha un po' collegato alla reincarnazione, cioè se uno fa una vita peggiore o migliore a seconda, diciamo, quello che potrebbe essere inferno o paradiso. Ecco, quindi in un certo senso questo concetto della reincarnazione io l'ho sempre intuito, no? E ne ho avuto conferma dalla Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Sì, Bhagavad Gita. No, ma questo di Bonifacio VIII è interessante a dire, perché forse molti non lo sapevano, che il Papa dice che l'inferno e il paradiso sono di questa terra, che mi sembra un'affermazione addirittura profana detta dal Papa. Invece probabilmente fu come? Poi è stata messa a tacere. Sì, sì, no, chiaramente questo qui sì. Però lo lessi da qualche parte. Era un Papa un po' particolare, no? Secondo alcuni un grande papa, secondo altri come Dante proprio lo butta giù nell'inferno. Sì. Dipende come può essere detto, come può essere visto. Anche va bene. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Non aspettare. E non aspettare? Non aspettare, bisogna correre, bisogna andare. Non aspettare. Non aspettare, torna indietro. torno indietro da Krishna, questo ce l'aggiungiamo noi, perché lui non lo sta dicendo, lo stiamo dicendo noi, di andare in un altro luogo, another place. Qual è l'altro posto? Vaikunta, Krishna Loka. Allora, benvenuto nel mondo spirituale. Allora, vieni con noi. Non ti tornare, non ti voltare indietro, guarda sempre avanti, perché quello che c'è avanti è molto più bello di quello che trovi indietro a te. L'anima spirituale passa di corpo in corpo, dai pianeta in pianeta, di universo in universo, semplicemente soffrendo. E la parte grottesca della faccenda è che ognuno pensa di essere felice, mentre invece sta semplicemente soffrendo. Anche nei momenti in cui la persona pensa di essere felice, quella felicità è semplicemente la negazione temporanea, momentanea del dolore. E siccome è momentanea, chiaramente si soffre di più perché si sa che è temporanea. Dopo quel poco di felicità, che poi è niente in confronto alla vera felicità, c'è ancora all'agguato, dietro l'angolo, la sofferenza. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola. È così che il tuo presente dal passato, è così che adesso stai creandoti un futuro, libero di fare scelte ed anche di sbagliare, non puoi tirarti indietro al momento di pagare, c'è sempre da riscuotere e non pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare. Guarda un po' bene come vivi e cosa fai, guarda un po' bene cosa cerchi, cosa vuoi, guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto. Da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai? Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando dicono che è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? vuole dire che tu puoi agire come vuoi, puoi farti i tuoi errori senza pagarli mai. Dio non è nel cielo un panettiere, ma molti stanno pensando che il pane quotidiano in ogni caso sta infornando. Il pane in ogni caso sta infornando. Il pane in ogni caso sta infornando. Non esiste il caso, non esistono ingiustizie. Le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Guarda un po' bene come vivi e cosa fai, guarda un po' bene cosa cerchi e cosa vuoi, guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto. Tu chi sei, da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai? Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando, quando lo dicono che è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Continuiamo il nostro viaggio così all'interno di questo mondo delle trasmissioni dei devoti di Krishna e automaticamente chiaramente all'interno dell'universo dei devoti di Krishna. Abbiamo adesso da uno spezzone di un programma di Krishna Chaitanya Das un viaggio nel mondo dell'ecologia e delle cose naturali. In questa serie di interviste, in questa fiera appunto di oggetti e prodotti naturali, Krishna Chaitanya Das fa una serie di interviste insieme a Gaura Krishna Das veramente interessanti. In effetti l'ecologia è un argomento sempre attuale e probabilmente lo sarà per molti e molti anni. In effetti l'ambiente che ci circonda non è altro che lo specchio delle nostre coscienze. E come ben spiegato ai tempi vedici, quando la coscienza di Krishna, la coscienza di Dio, era molto più diffusa e tutte le persone erano coscienti, o buona parte delle persone erano coscienti, di essere parte di una unica cosa che viene tutta ed esclusivamente da Krishna Dio, la persona suprema, tutto è sua energia e a lui tutto appartiene. A quei tempi, dicevamo, anche la natura era veramente completamente al servizio dei bisogni dell'uomo, anche perché era assolutamente rispettata. Oggi vediamo che, cominciando dalle stragi di mucche e animali che quotidianamente vengono fatte nel mondo, cominciando da questo, dicevo, si può notare quanto invece il rispetto per gli altri esseri viventi, e con questo chiaramente anche alberi, foreste e il pianeta intero, sia decisamente scaduto. Quindi non possiamo aspettarci niente in cambio allora dalla natura. Fortunatamente molte persone si stanno sensibilizzando su questo problema e i devoti di Krishna naturalmente appoggiano ogni iniziativa in questo senso. Andiamo a sentire dal nostro spezzone di programma. E andiamo avanti con il nostro viaggio in quel di Euronatura, fiera dell'ecologia, dell'ambiente, del prodotto pulito, tra virgolette, vedremo poi se sempre potremo chiamarlo così. Andiamo avanti. Next door. Food for all. Cioè, noi siamo al centro nel Food for All, che adesso devi spiegare cos'è. Cos'è il Food for All? Cibo per tutti. Cibo per tutti. Ottimo. Questa è una cosa l'unica impresa artigiana che produce cibi naturali, genuini, con materie prime assolutamente e totalmente genuine. Siete voi che producete questi? Sì, sì. Allora, chi siete voi? Questi sono io. Ascoltatori di Radio Krishna Centrale, in ogni regione Primo, d'Italia. Ascoltate. Voi chi siete voi? Chi sei? Chi sei? Io sono Marcandeia. Marcandeia. Che nome? Nome. Cosa vuol dire Marcandeia? Un nome insolito. Cioè tu stai parlando alla radio dove di solito io mi presento come Gora Krishna, lui Krishna Chaitanya, per questo si è preso. Marcandeia, cioè, ma che è? Non l'avevamo mai sentito, un nuovo devoto. Uno della famiglia, Marcandeia, no? Eh? No, è un'altra parrocchia. Ma parlaci un po' di queste lavorazioni, quindi prodotti, no? No, abbiamo tutti i prodotti, dunque partiamo dai prodotti, una serie di biscotti, tutti fatti con farine integrali, zucchero greggio di canna, farine biologiche, una serie di creme naturali prodotte con frutta secca tipo nocciole, arachidi. Dove producete queste cose? Queste cose vengono prodotte a Verona ed è una, queste, delle attività del gruppo Ananda Marga. A Verona ci sono due cooperative che funzionano sempre per la distribuzione di cibi naturali in città. Se qualcuno che ascolta, poi scusa, vai avanti con l'elenco delle produzioni. Altra cosa, io vedo frutta secca naturale. Che facciamo è confezionamento di frutta secca naturale di vario tipo, sia esotica sia nazionale, cioè ananas, banana, papaya, potrebbe essere nocciola. Muesli, granola al cocco, germe di grano. Queste invece sono delle colazioncine, tutti vegetariani. Qui, delle colazioni che prepariamo noi, miscele di fiocchi e di frutta secca. Cioè sostanzialmente è tutto centrato sulla prima colazione? No, beh, le creme da spalmare. Anche per le merendine? Merendine, questo olio? La pasta integrale, quella puoi fare per pranzo e per cena. Senti, ho saputo che in Italia l'uso della carne, cioè anzi l'abuso, cioè l'uso sbagliato, di mangiare la carne è diminuito del 25%. No, dell'ultimo speriamo che sia vero. Di, no, un dato di fatto. No, a parte che c'è sempre più gente. E allora c'è sempre, voglio sapere da te, dico, c'è sempre più, a noi ci risulta così, voglio sapere anche da te. Penso anch'io, c'è sempre più gente che spontaneamente, per scelte sue naturali, senza nessun motivo ideologico dietro, sceglie di non mangiare più carne. Io do la vera sorpresa di questo stand è l'uvolio. Perché non ci dici cos'è questo uvolio? L'uvolio è un olio che proviene dalla pressione a freddo di semi di uva, dei vinaccioli. Quindi praticamente noi facciamo il succo d'uva. Qui invece si fa il succo dei semi di uva. No, potremmo farlo anche noi l'uvolio, perché esatto. Noi ci avanzano i semi. E possiamo separare i semi dagli altri... Possiamo separare i semi dagli altri ingredienti, spremerli a un 300-400 atmosfere, tiri fuori l'olio, che è un olio molto dietetico perché ha un alto contenuto di acido linoleico, e questo aiuta, non solamente impedisce la formazione del colesterolo, ma addirittura scioglie il colesterolo nel sangue. Ma una domanda, ma come fai a separare i semi? Dall'uva, no? È un discorso troppo tecnico, anche lì c'è una squadra di cinesi che lavora. Chicco per chicco, no? No, ma chi è che lo fa però? Voi? Fate no, voi? No, facciamo noi. In Toscana. Lo distribuite, no? Voi? Nel Veneto, sempre a Padova. A Padova? Allora, noi abbiamo un vasto seguito di ascoltatori, uno studio a Padova. Per gli amici del Veneto, dà un indirizzo preciso se qualcuno vuole cercare. Non ce l'ho, devo chiedere. Ma i vostri prodotti, almeno voi. Noi siamo a Verona come cooperativa di distribuzione in via 20 settembre 115 e la cooperativa si chiama Ananda Parivar, mentre come Food for All abbiamo sede e produzione a San Martino Buonalbergo in via 20 settembre 52. Benissimo. Quindi potete senz'altro prendere contatti direttamente anche per l'uvolio, l'olio d'oliva dai semi olio da semi di uva, divina sostanza, olio da semi di uva, esatto. Va bene, grazie, arrivo. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora proseguiamo con la nostra visita ad Euronatura. Eravamo arrivati a considerare l'uvolio. E ora Cristi, in modo spiritoso ma interessante, si era domandato: ma come faranno mai a separare i semi dell'uva dalle bucce schiacciate, da quello che resta dopo quando che si lavora, dopo che si è lavorata per pigiandola l'uva? Allora subito di fianco c'erano proprio gli esperti di questo uvolio, abbiamo chiesto a loro, sentiamo qual è la loro risposta. Arriva, erano di fianco allo stand del Food for All. Adesso come ti chiami? Graziano. Graziano è qui nell'angolo dell'uvolio, Modin 1842. Sono delle fotografie che illustrano probabilmente varie processo di lavorazione. Sì. Allora, in sostanza, di che si tratta? È una cosa che nuova per me, non l'avevo mai visto. Spiegalo un po' anche agli ascoltatori. Si tratta di un olio che è estratto esclusivamente per pressione dal vinacciolo. Il vinacciolo cos'è? Il vinacciolo, che in pratica è il seme dell'uva, si trova dentro l'acino. Cioè, generalmente quando pestano l'uva per farne o succhi come facciamo noi o vini anche, cosa rimane poi dell'uva? In pratica vi rimane la vinaccia, che un misto di semi, bucce e raspo dell'uva in pratica. Sì. Questa vinaccia... Come fate a separare ora a quel punto i semi dalle bucce e dal resto? In pratica c'è uno squad di semi, viene chiamato, che è una serie di crivelli, di setacci, con dei buchi, dove le materie più pesanti vanno sotto, e allora si ha che le buccette vanno da una parte, il raspo che è leggero, secco, va da un'altra, e i vinaccioli cadono in basso per gravità. Quindi si ha il vinacciolo pulito, essiccato, e passa subito all'oleificio per la macinazione. Qual è il rapporto fra semi d'uva necessari e litri di uvolio finito? Dunque dipende molto dalle annate. Per esempio l'anno scorso abbiamo avuto una resa del 12-12,5%. In pratica ogni quintale di vinacciolo mi può dare 12,5 kg di olio grezzo. Ho capito. Va bene, grazie molte. Questo ha delle particolari qualità dietetiche, questo olio? Questo leggero. È importantissimo nell'alimentazione umana, perché è l'olio che contiene, rispetto a tutti gli altri gli oli di semi, la maggior quantità di acido linoleico, circa il 74%. Questo acido è importantissimo per la dieta umana, perché oltre a abbassare il contenuto di colesterolo nel sangue, aiuta tutto il metabolismo umano. È un precursore delle prostaglandine, quindi molto interessante, insomma, nell'alimentazione. Benissimo, allora se qualcuno volesse avere più informazioni o rivolgersi direttamente a voi per sapere qualcosa, dove può trovarvi? Ci può trovare a questo numero di telefono, allo 049 625044 di Padova, Ponte di Brenta. Grazie. Prego. L'uvoglio, potete veramente, se volete, scoprire questa dimensione di lubrificazione leggera dai semi dell'uva, fare il contatto che lui vi ha proposto. L'arancia è un frutto d'acqua, d'acqua di caldo, di vento, di legno e di terra. Il latte è un dono bianco, bianco di prendere l'erba e donarla da bere. Intanto questo è un discorso che io facevo in quella che potrei chiamare un'altra vita, nella vita precedente. Nella vita precedente mi chiamavo Claudio Rocchi, facevo il cantante, e intorno agli anni 1971, anzi 70, scrivevo questa canzone. L'arancia è un frutto d'acqua, le mucche che prendono l'erba e la restituiscono da bere, e quindi grazie, ecco perché c'è questo riconoscimento, questa gratitudine verso la mucca che porta immediatamente all'idea di non mangiarla, non farla a pezzi, non ucciderla, non mangiarla. Come mai potremmo fare a pezzi chi ci fa un regalo così grande? Ecco, chi comincia a pensare alla natura in questi termini di riconoscenza sviluppa naturalmente senza difficoltà quell'attenzione che poi è alla base di ogni discorso sull'ecologia. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Fuori dal tempo. Eh sì, è fuori dal tempo, sì, siamo veramente fuori dal tempo. Infatti, i discorsi che i devoti di Krishna stanno facendo da molti anni ormai vanno sempre, sempre, costantemente bene. E senz'altro, è senz'altro il discorso più importante, la cosa più ribadita in tutti questi anni di trasmissione della nostra carissima emittente RKC Radio Cristo Centrale, è senz'altro l'invito ripetuto miliardi e miliardi di volte a cantare che cosa? Il Mantra Hare Krishna. Il Ma Mantra Hare Krishna. L'inizio, la metà, la fine di ogni cosa, di ogni pensiero, parola, azione dei devoti di Krishna. Veramente questo mantra, composto da 16 parole, ha una potenza inconcepibile, diciamo. Naturalmente si può analizzare da tanti punti di vista. I devoti di Krishna, diciamo che si fidano dei maestri spirituali che compongono la nostra catena disciplica. E in ultima analisi si fidano di Krishna, di Dio, la persona suprema. Si fidano dei santi, dei sadhu, delle persone che hanno già praticato e hanno già realizzato la potenza del Mahamantra Hare Krishna. Si fidano delle scritture rivelate, questi antichi testi, grandi classici dell'India, le più antiche scritture spirituali che esistono sul pianeta. Ma come sentiremo dal prossimo così spezzone di programma, sempre dei Krishna Chaitanya Das, la potenza del Mahamantra Hare Krishna può essere analizzata, diciamo, anche in un modo quasi scientifico. E questo modo di analizzare le cose è sempre molto interessante, alle persone piace molto vedere le cose sviscerate, spaccate, proprio così, in modo tecnico, scientifico. Ma andiamo subito a sentire. Poi viene poi il canto, perché penso che una mano, eh? Diciamo, questa radiazione sonora che viene fuori è una radiazione che... Comunque ha un valore assoluto, è anche cantata da qualcuno che non sappia nemmeno cosa significa. Esatto, funziona lo stesso. Esatto, ma io vedo che la cosa più strana è che guardando dal punto di vista, diciamo, se mi passate la parola, scientifico, il mantra Hare Krishna contiene appunto dal punto di vista fonetico delle grandi soluzioni per mettere a posto anche la voce, ecco, per aiutare appunto la voce a venire fuori in maniera normale, regolare. Infatti noi quando rispondiamo al telefono diciamo Hari Bol, vuol dire Bol e canta Hare Krishna. Esatto, per esempio quella A, no, l'uso della vocale Hari Bol, no? La R per esempio, questa liquida che ha una funzione quasi vocalica, no? Poi queste vocali che noi continuamente, sapete che il canto italiano è impostato sulle vocali, la lingua italiana è proprio fatta apposta per il canto. E poi tutti gli infiniti in italiano finiscono con are. Esatto, ma poi queste consonanti che vengono usate, queste liquide vocaliche, no? E poi per esempio la B di Hari Bol, no? Bol. Una cosa che una consonante che porta la voce, come si suol dire, in avanti. Sì, non tiene una rubrica su mantra del professore, il canto del Mahamantra potrebbe essere indubbiamente, se potesse essere utile mantra, se potesse essere utile senza dubbio, certo, cioè, io direi più che utile, utilissimo. Ma grazie, molto gentile. Va bene, allora approfondiremo, preannunciamo, adesso lo prendiamo, preannunciamo agli ascoltatori un futuro sviluppo preciso del professor Stefano Ginevra. Vabbè, è troppo esagerato, ma comunque già perché i mantra hanno già un valore di per se stesso. Scusa, semmai, sei un professore. No, semmai per analizzarli e vedere appunto i mantra sono tipo... scientifici, sì. E allora la scienza dei mantra è il professor Stefano Ginevra. Beh, grazie. Prego. Hare Krishna. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Stefano, il professore Stefano Ginevra. Abbiamo, che cosa possiamo dire? Brevemente, poi naturalmente in sedi più adatte, con più tempo a disposizione, potremo riprendere e approfondire questi argomenti. Cosa possiamo dire sul legame fra l'antica tradizione classica del canto gregoriano, ad esempio, e la cultura modica tonale, modale? Beh, innanzitutto bisogna dire che il canto nasce nella nostra cultura occidentale come preghiera, e quindi in questo si riallaccia ovviamente al concetto di canto in altre civiltà precedenti a quella nostra, quella occidentale. Il canto innanzitutto è preghiera, il canto gregoriano è un modo di pregare attraverso appunto il suono, il canto, la produzione della voce. Ma ci sono dei legami fondamentali tra la nostra cultura occidentale, il nostro canto gregoriano e quanto viene prima, e soprattutto il canto cultura vedica, il sanscrito, e che si esprime in sanscrito. Addirittura il concetto di tonalità e di modalità trova appunto le sue radici in questa cultura precedente alla nostra, cioè dire nel sanscrito. Per esempio la stessa parola tonos, che i greci dicono tonos, in sanscrito si dice tana, e quindi trova appunto effettivamente anche da questo punto di vista la sua radice, la parola, proprio nella cultura vedica. Quindi approfondire questi legami, vedere queste possibilità espressive sempre in funzione della parola che hanno nella cultura vedica le radici è molto utile per noi, anche per capire oltretutto meglio la nostra civiltà occidentale nella sua espressione musicale e canora. Allora, hai iniziato a sperimentare il canto del mantra Hare Krishna? Io sì, l'ho sperimentato, non solo, ma anche l'ho sperimentato personalmente, perché anch'io sono un cantante, oltre che un direttore, un cantante, ma l'ho anche fatto sperimentare, visto che con me andava bene, anche con gli allievi, magari senza dire che c'era un collegamento con una civiltà religiosa così grande. Cioè, hai fatto cantare a scuola Hare Krishna agli allievi? Esatto, come si suol dire... In coro. In coro e singolarmente, perché io faccio anche lezioni singole per i cantanti. Sai che nella nostra tradizione il canto si svolge con una voce guida e il coro che risponde? Esatto, questa forma che da noi può essere chiamata responsoriale a livello gregoriano, insomma, c'è un solo che propone e il coro che risponde, la scuola cantorum che risponde. Beh, in questo senso si può dire che è proprio le consonanti, le vocali contenute nel mantra Hare Krishna sono molto molto utili per la corretta emissione della voce. Quindi oltretutto c'è un vantaggio a usarle al di là dei principi religiosi, insomma, o per meglio dire al di qua, insomma, che effettivamente i principi religiosi sono più importanti, ovviamente. Va bene, ho come far risuonare la coscienza, in sostanza. Esatto. Bene, grazie, a presto. Allora, diamoci appuntamento con gli ascoltatori a qualcosa di più precisamente preparato per capire meglio da altri punti di vista gli aspetti più sottili e più profondi del contenuto proprio di queste vibrazioni sonore trascendentali. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, una domanda. Sentito in quanti modi si può pensare Mahamantra di Krishna. Questo suono è un suono trascendentale che va direttamente alla nostra vera natura. Quindi diciamo che la nostra intelligenza è contaminata dalla natura materiale, contaminata dall'identificazione con questo corpo. Non può al momento attuale capire l'effettiva importanza e come effettivamente funziona questo Mahamantra Hare Krishna. Ci basta sapere che Mahamantra Hare Krishna, essendo di natura spirituale, essendo il nome di Dio e come ben sappiamo quando si parla di Dio si parla di assoluto, quindi non c'è alcuna differenza tra la stessa persona di Dio, il suo nome, i suoi attributi, le sue attività. Quindi, come dicevamo, Mahamantra che va direttamente alla nostra vera natura. nostra vera natura, che ancora una volta ricordiamo è quella di servitori di Dio, la persona suprema. Quindi andiamo al di là di questo sogno, di questi sogni che stiamo vivendo ormai da innumerevoli esistenze. Cerchiamo di analizzare e di capire bene che quello che stiamo facendo in questo corpo sono cose che abbiamo fatto miliardi di volte, anche in altre forme viventi. Nascere, invecchiare, morire, ammalarsi, mangiare, dormire, riprodursi, difendersi. Appartengono tutti allo stesso sogno. Di giorno e di notte stiamo sempre sognando. Night and day dream. Di notte si sogna e ci si identifica con quella situazione. Mettiamo caso che stiamo sognando di essere inseguiti da una tigre, sentiremo paura e stiamo scappando. La tigre è sempre un palmo dietro di noi, non ci raggiunge, però la paura di essere raggiunta è sempre lì. Quindi sebbene la tigre non esiste a livello fisico, però la paura è lì lo stesso. Così in questo mondo materiale noi non siamo questo corpo materiale, ma la sensazione di dolore è sempre lì, e a livello mentale, immaginario. Allora voi sentirete da questo, chi conosce l'inglese naturalmente sarà facilitato, questa canzone è forse la più significativa di tutto il disco, di tutto l'LP, Night and Day Dream. Sognare di notte, sognare di giorno, la vita è un sogno. La realtà è quando ci svegliamo e la nostra realtà spirituale è in relazione con Krishna. Dopo di questo brano possiamo discutere ancora di più e dire qualche parola. Allora, gli Ananta, Night and Daydream. Ho visto un mondo ed era così strano, di pianeta in pianeta. Così tanti dolori, così tanti corpi. Ho avuto un sogno ed era così strano. Così strano. Ho visto un mondo ed era così strano. Viaggiando da un pianeta all'altro attraverso le galassie. Evolvendosi attraverso le specie di vita. E tutti noi stiamo vivendo in un sogno, queste sono le parole di questo disco. Stiamo vivendo in un sogno di notte e anche di giorno. Nascita e morte. Inizio e fine. Tenebre e luce. È così duro a capire la realtà. Bellezza, ricchezza. Niente rimane davanti al tempo. Davanti al tempo tutto si distrugge. Ho sognato ed era un sogno strano. Ho visto un mondo ed era così strano. stiamo tutti vivendo in un sogno. Nascita e morte, inizio e fine. Tenebre e luce. È così difficile capire qual è la realtà. Tutto quello che c'è di materiale non resiste davanti all'attacco del tempo, davanti alla realtà del tempo che scorre e porta via tutto. Ora farà sentire alcune parti della vita dell'uomo, dalla nascita fino alla morte. Ascoltate. Questa è l'anima che entra in un corpo, eh? Questa è la scuola. Questo è il matrimonio. Abbiamo qui la guerra. Nascere, riprodursi, difendersi. Il momento della morte si sta avvicinando. Cantare Krishna. Le risposte ai tuoi problemi sono i nostri programmi. Radio Krishna Centrale. Allora, Guru Pooja, siamo andati sul serio, siamo andati stavolta, eh? Un po' troppo, che dici? Dico che quel pezzo è molto bello, no? Quello del sogno di giorno e di notte, in effetti si è visto, sì? Proprio quel brano lì, no? Come il sogno è ricominciato presto, Molto presto. Nuovo corpo, nuovo sogno. Sentite che botta, eh? Con l'imbernoccolo. In effetti quello ho avuto proprio così mi ha colpito molto perché mi ha fatto vedere come effettivamente la nascita è dura, molti pensano che la nascita sia un momento molto bello, no? Sì, fiocchettini rosa, fiocchettini azzurri, però in effetti per chi partorisce, ma soprattutto per chi nasce, non è mica tanto semplice, anzi è molto ma molto molto dura effettivamente. Quindi bando alle illusioni, che vogliono, no, così il momento della nascita come il momento senza problemi, il momento bello per eccellenza. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Eh sì, RKC è proprio qui per togliere ogni illusione. C'è che magari chi dice, ma perché questi devoti di Krishna vogliono toglierci ogni illusione? Ma perché? Perché illusione, naturalmente, la parola stessa lo definisce, è una cosa che non è vera, che non è reale. Però non c'è solo da togliere. Togliamo le illusioni e non è che rimane così vuoto, non rimane più niente. Ma mettiamo la verità, mettiamo la realtà. E devoti di Krishna bisogna dire che grazie, ancora una volta approfittiamo per ringraziare enormemente il nostro maestro spirituale fondatore A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I devoti di Krishna, dicevamo, grazie a lui, adesso hanno la verità, hanno la lucidità. Quindi tranquillamente e gioiosamente, diciamo, basta con queste illusioni, perché con la conoscenza automaticamente si ha la vera, autentica felicità. E a proposito di Srila Prabhupada, chi più di lui ci può spiegare chiaramente e in modo perfetto che cosa significa sognare, cosa significa sognare di notte e sognare di giorno, che cosa significa come capire che non siamo questo corpo? Quindi senza indugio andiamo a sentire da una lettura di Prahladesh Das che cosa ci dice a proposito Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sentiamo un po' cosa Srila Prabhupada ha da dirci riguardo all'argomento che è il sé e i suoi corpi. Questo lo ricolleghiamo anche al fatto che fumare o prendere intossicanti ci fa identificare al nostro corpo, quando invece appunto noi siamo il sé, l'anima, e non siamo il corpo. Questo articolo qua ci spiegherà molto chiaramente come noi non siamo questo corpo. Yata gyas tamasa yukta upaste vyaktam evahi na veda purvam aparam nasta janma smritistata. Come una persona addormentata agisce in accordo al corpo manifestato nei suoi sogni e lo accetta come se stesso, nello stesso modo la stessa persona si identifica con il suo attuale corpo che è acquistato a causa delle sue attività passate religiose o irreligiose, e nello stesso modo la persona è incapace di conoscere le sue vite passate o future. Questa è una citazione dallo Srimad Bhagavatam, sesto canto, primo capitolo, 49° verso. La Prabhupada inizia dicendo: ecco un esempio molto buono dell'ignoranza che copre l'entità vivente nel mondo materiale. Quando noi sogniamo, noi dimentichiamo ogni cosa riguardo noi stessi, che noi siamo il signor tal dei tali, che abita in un luogo tal dei tali, che ha un conto in banca tal dei tali. Ogni cosa viene dimenticata. E quando ci risvegliamo, noi dimentichiamo il sogno. Questa è la nostra esperienza giornaliera, ma sia che noi siamo nello stato sveglio o nello stato addormentato, noi vediamo le nostre attività. Nel sogno noi siamo gli osservatori e nello stato cosiddetto sveglio noi anche lì siamo osservatori. Così noi, anima spirituale, che sperimentiamo, rimaniamo lo stesso, ma le circostanze cambiano e noi dimentichiamo. Nello stesso modo, noi non possiamo ricordare ciò che eravamo nelle nostre vite precedenti, né sappiamo che cosa andremo ad essere nelle nostre vite successive, ma è un fatto che, come anime spirituali, siamo eterni. Noi esistevamo nel passato, esistiamo attualmente e continueremo ad esistere nel futuro. Krishna spiega questo a Arjuna nella Bhagavad Gita dicendo: o Arjuna, tu, io e tutte queste persone che sono riunite su questo campo di battaglia esistevano prima e tutti noi continueremo ad esistere in futuro. Questa è la comprensione preliminare nella vita spirituale, cioè sapere: io sono eterno. Come anime spirituali, noi non prendiamo nascita, né moriamo. Najayate mriyate vakadacit. Noi non finiamo quando c'è la distruzione del corpo materiale. Na anyate anyamane sharire. La distruzione del corpo sta già avvenendo. Il nostro corpo dell'infanzia è ora distrutto. Non possiamo trovarlo, questo corpo. Il nostro corpo da giovane, anch'esso è distrutto. Nemmeno quello riusciamo a trovarlo. Nello stesso modo, il nostro attuale corpo verrà distrutto e noi prenderemo un altro corpo. Tata deantara prapti. Quando l'anima trasmigra, il corpo grossolano viene perso. Il corpo grossolano è fatto di materia e ogni cosa materiale eventualmente finirà. Questa è la natura della materia, ma l'anima spirituale non finisce mai. Così noi stiamo cambiando corpi, uno dopo l'altro. Perché ci sono differenti tipi di corpi? Poiché l'entità vivente, l'anima spirituale, sta entrando in contatto con i vari modi della natura materiale. E in accordo a quale modo, da quale modo viene influenzata, l'entità vivente sviluppa un corpo grossolano. Così noi abbiamo acquisito il nostro corpo attuale a causa delle nostre attività passate. Karmana daeva ne trena jantur deo papattaye. Uno ottiene un tipo particolare di corpo in accordo al suo passato karma o attività materiali. La natura agisce automaticamente in accordo al nostro karma. Supponiamo che voi prendiate una malattia. La natura agirà. Voi dovrete sviluppare quella malattia e sottoporvi a un certo tipo di sofferenza. Nello stesso modo, quando noi giungiamo sotto l'influenza dei modi della natura materiale e eseguiamo attività karmiche, noi dobbiamo trasmigrare da un corpo all'altro. La legge della natura lavora in maniera molto perfetta. Ora, quando noi giungiamo alla vita umana civile, dovremo domandarci: perché sto soffrendo? Il problema è che, poiché noi siamo sotto l'incantesimo di Maya, l'illusione, e scambiamo la sofferenza per piacere. Maya significa ciò che non è. Noi pensiamo che stiamo godendo, ma di fatto stiamo soffrendo. In questo corpo materiale noi dobbiamo soffrire. Noi soffriamo a causa del corpo. Freddo, caldo, noi sentiamo queste cose per causa del corpo. Sotto certe circostanze noi sentiamo piacere, ma nella Bhagavad Gita Krishna consiglia: Matrasparshastu Kaunteya Shitoshna Sukadukada Agamapaino Nityas Tangstitikshasabharata. La felicità materiale e il dolore sono causate dal corpo. Essi vengono e vanno proprio come i cambiamenti di stagione. Così non bisogna essere disturbati. Bisogna cercare di tollerarli. Finché noi siamo in questo mondo materiale, la felicità e il dolore andranno e verranno. Così noi non dovremmo essere disturbati da queste cose. Il nostro vero compito, il nostro vero affare è cercare la realizzazione del sé. Questo deve continuare, non deve mai fermarsi. La realizzazione del sé è lo scopo della vita umana. Soffrire è l'essere, per quello che si dice, felici, andrà avanti finché noi abbiamo un corpo materiale. Ma noi dobbiamo giungere alla conoscenza che io non sono il corpo, io sono un'anima spirituale. Io ho avuto questo corpo a causa delle mie attività. E questa è la vera conoscenza. Ora, un uomo sensibile dovrebbe considerare: dato che io sono un'anima spirituale e il mio corpo è semplicemente una copertura, non è possibile por fine a questo processo di trasmigrazione da un corpo all'altro? Questa è la vita umana. Farsi delle domande su come fermare la contaminazione del corpo materiale. Sfortunatamente la gente nella cosiddetta civiltà moderna non si fa questa domanda. Loro sono pazzi nei confronti della gratificazione dei sensi, del corpo, e agiscono in maniera irresponsabile. Come spiegato nello Srimad Bhagavatam, Nunam pramatta kurute vikarma yad indriya pritaya aprinoti, na sadhu manye yato Atmanoyan, Asan Apikleshada Asadea. La gente che agisce solamente per la gratificazione dei sensi è certamente pazza e esegue ogni genere di attività abominevoli. In questo modo queste persone si assicurano la loro trasmigrazione da un corpo all'altro perpetuamente e così l'esperienza di ogni tipo di miseria. Noi non capiamo che il corpo è sempre kleshada, cioè dà sempre dolore. Al momento attuale possiamo sentire un po' di piacere, ma di fatto il corpo è una riserva di dolore. Ecco una buona analogia a questo proposito. Prima, quando gli ufficiali del governo volevano punire un criminale, gli legavano le mani, lo portavano nel mezzo di un fiume e lo spingevano giù sott'acqua. Quando egli era quasi annegato, lo tiravano su dall'acqua per i capelli e gli davano un po' di riposo. E poi ancora lo spingevano giù nell'acqua. E questo era il sistema che si usava per punirlo. Nello stesso modo, quel poco di piacere che noi stiamo sentendo in questo mondo materiale è esattamente come il piacere che il criminale trova quando viene tirato fuori dall'acqua. Questo è tutto. Una sofferenza tremenda con pochi momenti di sollievo. Questo è ciò che è il mondo materiale. Questa è la ragione per cui Sanatana Goswami, che era stato un ricco ministro nel governo musulmano in India, si presentò da Sri Chaitanya Mahaprabhu e chiese: «Che ami? Che ne amaya jare tapatraya? Chi sono io? E perché sto soffrendo le triplici miserie?» Questa è intelligenza. Noi costantemente ci sottoponiamo a qualche tipo di dolore, sia causato dal corpo, dalla mente, inflitto da altre entità viventi, o portato da disturbi naturali. Queste sono le tre miserie. Noi non vogliamo queste miserie, ma loro sono forzate su di noi. Così, quando uno accetta un maestro spirituale, la prima domanda dovrebbe essere: perché sto soffrendo? Ma noi siamo diventati così ottusi come gli animali che non ci facciamo mai questa domanda. Gli animali soffrono, ognuno lo sa questo, ma non possono chiedersi perché. Quando un animale viene portato al macello, egli non si chiede perché vengo forzato ad entrare in un macello, in un mattatoio. Ma se tu prendi un essere umano e lo porti e vuoi ucciderlo, egli farà un grande rumore, Questo uomo mi sta portando via per uccidermi, perché io devo essere ucciso? Così, una importante distinzione tra la razza umana e la vita animale è che solamente l'uomo può farsi una domanda: perché sto soffrendo? Sia che tu sia il presidente Nixon o un uomo nella strada, tu stai soffrendo, questo è un fatto. Tu stai soffrendo a causa del tuo corpo e stai facendo qualcosa che ti causerà il dover accettare un altro corpo materiale. Tu stai soffrendo a causa della tua vita passata, poiché nella tua vita passata hai fatto molta gratificazione dei sensi e per questa ragione hai ottenuto un corpo in accordo al karma. E se tu ti impegni nella gratificazione dei sensi in questa vita e non cerchi di elevarti, ancora dovrai accettare un altro corpo e soffrire. I secondo il sistema della natura, tu accetterai un altro corpo in accordo alla mentalità che tu hai avuto all'istante della morte, e non appena tu otterrai un altro corpo, tu soffrirai ancora. Persino nel ventre della madre tu soffrirai. Rimanere in quella borsa, in quella sacca così compatta per così tanti mesi, con le mani e le gambe tutte legate, incapaci di muoversi, questa è grande sofferenza. E al giorno d'oggi c'è anche il rischio di essere uccisi nel ventre. E quando tu esci c'è ancora sofferenza. Quindi noi dovremmo essere abbastanza intelligenti da chiederci: perché sto soffrendo e come posso porre termine a questa sofferenza? E finché noi non ci chiediamo perché sto soffrendo, la nostra vita umana non è ancora iniziata. Noi restiamo animali. Il farsi domande sulla causa ultima della nostra sofferenza è chiamato in sanscrito Brahma Jigyasa, cioè domande sulla verità assoluta. Come si dice nell'inizio del Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, avendo raggiunto la forma umana di vita, ci si deve fare domande sul Brahman, la verità assoluta. Così noi dovremmo prendere vantaggio della forma umana di vita. Non dovremmo vivere come animali senza farci domande, senza cercare di trovare come porre termine alla nostra vita materiale miserevole. Naturalmente noi stiamo cercando di porre fine alle nostre miserie, lavorando così duramente nella lotta per l'esistenza. Perché cerchiamo di ottenere denaro? Perché pensiamo: se io avrò del denaro, la mia sofferenza verrà mitigata. In questo modo va avanti la lotta per l'esistenza. E ognuno sta cercando di diventare felice ottenendo la gratificazione dei sensi. Ma la gratificazione dei sensi non è la vera felicità. La vera felicità è la felicità spirituale, che viene dal servire Krishna. Quella è felicità. Ma la felicità materiale è semplicemente una felicità distorta. La felicità materiale è come il miraggio dell'acqua nel deserto. Nel deserto non c'è acqua, ma quando un animale assetato vede il miraggio dell'acqua nel deserto, corre dietro a questo miraggio e alla fine muore. Noi sappiamo che non c'è acqua nel deserto. Quell'acqua è solamente un riflesso del sole, ma gli animali non sanno questo. Nello stesso modo, vita umana significa abbandonare il cercare la felicità attraverso la gratificazione dei sensi, che è proprio come un miraggio nel deserto, e a mettersi invece alla ricerca della felicità spirituale. Noi possiamo risvegliarci a questa felicità più elevata semplicemente cantando Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il cantare Hare Krishna è una cosa così semplice, tuttavia può liberarci da tutte le sofferenze nel mondo materiale. La nostra sofferenza è causata dalle molte cose sporche all'interno del nostro cuore. Noi siamo proprio come dei criminali che hanno delle cose sporche nella loro coscienza. Il criminale pensa: se io ottengo quella cosa tal dei tali, sarò felice, e a rischio della sua stessa vita commette un crimine. Un ladro o un rapinatore sa che se egli è catturato dalla polizia sarà punito. Ciononostante continua a rubare. Perché? Nunam pramatta, egli è impazzito per la gratificazione dei sensi. Questo è tutto. Così noi dobbiamo purificare i nostri cuori dai nostri desideri sporchi che ci costringono ad agire per la gratificazione dei sensi e a soffrire. E in questa era la purificazione è molto molto facile. Basta cantare Hare Krishna, questo è tutto. Questo è il contributo di Chaitanya Mahaprabhu. Ceto Darpana Marjanam Bhavama Davagni Nirvapanam. Se tu canti l'Hare Krishna mantra, tu sarai liberato dalla sofferenza causata dalla trasmigrazione perpetua da un corpo all'altro. Il cantare, il mantra di Krishna, è una cosa così semplice. Non c'è ragione di casta, credo, nazionalità, colore o posizione sociale. Nulla. Per grazia di Dio, ognuno ha una lingua e delle orecchie. Così ognuno può cantare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Quindi semplicemente cantate Hare Krishna e siate felici. Grazie molte. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Benissimo, abbiamo sentito questo bellissimo Mahamantra e all'inizio del Mahamantra avevamo anche gli omaggi al maestro spirituale e anche al signor Chaitanya Nityananda, Krishna Chaitanya Nityananda e suoi associati, questi omaggi che abitualmente si fanno sempre quando si comincia così qualsiasi attività spirituale. Thank you. anche questa un'attività che veramente è fuori da tempo. Da sempre i Vaishnava e i devoti del Signore, di Sri Krishna, quando pensano a Krishna pensano anche ai suoi puri devoti. In effetti la nostra relazione con Krishna è da tempo ormai veramente immemorabile, interrotta, si può ristabilire solamente attraverso il maestro spirituale e la sua infinita misericordia. È lui che ci insegna come rilacciare questa relazione con Dio ed è lui che praticamente ci accompagnerà da Krishna. Benissimo, e per così siamo sul finire del nostro programma e andiamo a sentire ancora qualche cosa così dalla voce di Krishna Prema Das. Qualche cosa sulla curiosità umana, sulle curiosità ormai dell'uomo. L'uomo visto dall'occhio del devoto di Krishna, visto dalla coscienza di Krishna, con tutte le sue, con tutti i suoi desideri, con i suoi tentativi di essere felice, è veramente così, a volte divertente, a volte così dà un po' un riso amaro. Bene, allora, sentiamo un po' Krishna Prema Das. Quelli che mangiano poco, quelli che si chiamano coloro che hanno una dieta da uccellino, proprio una cosa minima. E qui si sembra che dopo vari studi che mangiare come un uccellino potrebbe proteggervi dal cancro, dice un professore di medicina della Università di New York. Walter Troll asserisce che gli enzimi presenti in tutti i semi, compresi il grano, pensate, i fagioli e il riso, riescano a evitare il diffondersi del meloma nei topi. Sembra inoltre che una dieta di questo tipo possa bloccare lo sviluppo di forme tumorali del fegato, del colon e della mammella. Secondo Troll potrebbe essere questa la ragione per cui alcune popolazioni presentano percentuali inferiori dei tumori indicati. Io vi ricordo che gli uccellini sono assolutamente vegetariani. Infatti qui si parla di riso, fagioli, grano e semi. Gli enzimi, chiamati inibitori della proteasi, si combinano nello stomaco dei topi con gli enzimi che digeriscono le proteine. Poi passano attraverso il sistema e vengono espulsi. Nessuno sa però, e qui ci siamo di nuovo, con certezza perché questo eviterebbe il cancro. E sembra improbabile che una risposta possa essere trovata entro breve tempo. Siamo sempre a metà, La notizia sensazionale che poi finisce come al solito, in un... beh, insomma, comunque staremo a vedere, per il momento non c'è niente di sicuro. Ci sono anche quelli, comunque, è incredibile, continuiamo in questa panoramica che ha a che fare con il corpo, così per dare un'idea proprio dell'inutilità di certi... prese di posizioni a riguardo alla nostra identità, perché in realtà, cari signori, lo sappiamo benissimo, non possiamo essere il corpo. Ci sono troppe evidenze. Il modo più interessante, più chiaro per far capire questo, l'esempio, è per esempio quello della macchina del guidatore, un esempio che noi usiamo spesso perché è un esempio interessante e chiaro, e cioè che ognuno di noi quando va in macchina chiaramente rimane se stesso e non è per quello, siccome monta sulla macchina, che si debba identificare con essa. In realtà la macchina rimane distinta e quando l'uomo ha finito di usare la macchina, oppure la macchina non funziona più, si scende dalla macchina, ci si procura un altro mezzo e andiamo avanti nel nostro viaggio. E così anche per il corpo, l'anima, il guidatore, usa questo corpo finché è possibile, finché il corpo non casca veramente a pezzi. Dopodiché che succede? Dopodiché, quando il corpo diventa inabitabile, l'anima se ne va e ne prende un'altra. Allora, pance prominenti, fianchi ad anfora, cuscinetti di grasso, questi rigonfiamenti di cui spesso si crucia e tutta la gente si ha un sacco di problemi, deformano il fisico, potranno essere eliminati con una semplice tecnica di svuotamento. Pensate, più di 500 persone negli Stati Uniti si sono sottoposte a questo intervento chiamato lipectomia di suzione, per suzione. E si hanno notizia di moltissimi chirurgi plastici che stanno imparando tale tecnica, chiaramente anche perché non a caso questa tecnica può dare degli ottimi risultati dal punto di vista della grana. Attraverso una piccola incisione, adesso entriamo nel vivo, il chirurgo inserisce una sonda cava collegata ad una pompa aspirante, incredibile. Ripetutamente spinge il tubo nel grasso così che ogni volta piccole quantità vengono estratte, lasciando il tessuto adiposo pieno di buchi, come un pezzo di groviera. La parte trattata viene poi compressa e fasciata strettamente per evitare il ristagno di liquidi nei buchi. Si possono in questo modo asportare molti chili di grasso alla volta. Gli stessi sostenitori della lipectomia per suzione affermano però che questo intervento, e ci siamo ancora, non è indicato per tutti. Non è neppure una cura per l'obesità. I risultati migliori si ottengono con persone sotto i 40 anni che non riescono a eliminare altrimenti i cuscinetti di grasso in zone delimitate. Sebbene le cellule del grasso prelevato siano eliminate per sempre, il paziente non rimarrà necessariamente magro. Ecco, ci siamo, perché in effetti queste persone fanno queste cure e poi tornano a casa, si fanno dei conchini di pasta magari, e quindi lì ricominciano a essere più grossi di prima. Sì, secondo il professor Fred Katz, medico presso l'Università di Colorado, gli adulti di solito hanno un numero fisso di cellule di grasso, circa 30 miliardi. Quindi, signori, 30 miliardi di cellule di grasso. Quando un adulto acquista peso, non accresce il numero delle sue cellule, ma semplicemente accumula grasso in quelle esistenti. Così, anche dopo il trattamento, può ancora succedere che un eccesso di cibo, e ci siamo, faccia dilatare le cellule rimaste, anche se il peso riacquistato dovrebbe essere distribuito più uniformemente. La lipectomia per suzione è stata largamente applicata anche in Europa, ma non è ancora possibile valutare quali saranno le conseguenze a lungo termine del trattamento. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Avete sentito quante storie, quanti tentativi puntualmente frustrati di mantenere il corpo in eterno. Benissimo, ormai siamo giunti al termine del nostro programma. Vi invito naturalmente a rimanere sempre all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale, così piano piano ritroverete la vostra vera identità, la vostra intera conoscenza e la vostra eterna felicità. Hare Krishna.